Quindi il primo modo di rivendicare la dignità del proprio ruolo femminile è quello di Jane Austen e quello di Anne Bronte, una rivoluzione domestica. Il secondo modo è quello delle donne guerriere, le George Sand, ma anche le Mary Wollstonecraft, che comunque anche Mary Wollstonecraft stranamente piace molto a Virginia Woolf, visto che Virginia Woolf oggi è un po' la madrina. Stranamente a Virginia Woolf piacciono entrambe, piace Jane Austen per la sua pacatezza, per il suo modo di non alzare i toni, di far valere la sua ideologia senza perdere stile, ma per il motivo totalmente opposto le piace Mary Wollstonecraft. Non so se avete ascoltato la registrazione sul canale dei capitoli dedicati alle grandi scrittrici. Scritte da Virginia Woolf, c'è un capitolo dedicato a Mary Wollstonecraft e c'è un punto dove lei dice: se Jane Austen avesse dovuto stare come Mary Wollstonecraft china sul pavimento per proteggere sua mamma dalle botte di suo papà, probabilmente sarebbe andata anche lei alle barricate a Parigi, non sarebbe rimasta a casa, no? Lei dice: Jane Austen comunque è nata in una famiglia semi-aristocratica, ha avuto una vita privilegiata, quindi non aveva motivo effettivamente di sviluppare il suo istinto guerriero. Mary Wollstonecraft sì, perché se non avesse fatto così non sarebbe uscita dalla situazione in cui era o l'avrebbe dovuto. Ma c'è, ecco, questa rivoluzione, io l'ho chiamata rivoluzione silenziosa la prima, rivoluzione rumorosa la seconda, perché dovevo dargli un nome veloce per identificarle. Poi c'è un terzo modo di fare rivoluzione di cui non mi ero mai resa conto prima, pensavo fossero soltanto questi due, invece evidentemente siccome dalla dualità sta passando all'unità ci si arriva al terzo basello, come si dice, il terzo gradino, perché dal 3 si torna all'1, no? Quindi è arrivata questa terza forma, che è stato un fliscione giusto ieri, che io ho chiamato rivoluzione attuata, ed è quella di Gertrude Bell o Gertrude Bell, di Marie Curie, di Rosa Luxemburg. Queste sono le donne che mi sono venute in mente, ce ne saranno sicuramente altre. Che cosa hanno queste donne di particolare? Marie Curie sappiamo di chi stiamo parlando, Rosa Luxemburg sappiamo di chi stiamo parlando, Gertrude Bell forse no. Gertrude Bell è stata una statista, è stata un'archeologa, è uscito un bellissimo film interpretato da Nicole Kidman, diretto da Wim Wenders, La regina del deserto, ve lo consiglio, perché è fatto veramente bene. Gertrude Bell fu un'aristocratica inglese, anche lei più o meno sempre del tempo, del 1800, non era per niente attratta dall'idea di doversi sposare, di fare un solito matrimonio che veniva assegnato alle aristocratiche di quel tempo, per cui chiese a suo padre di aiutarla, lei voleva viaggiare, credo che sia stata la prima donna inglese laureata, forse in storia, un diplomata in storia, non ricordo esattamente, ma una delle primissime donne inglesi ad avere una laurea, un diploma preso a scuola. Insomma, partì, ve la faccio breve la storia, partì e andò dapprima nell'ambasciata a Damasco, dove il padre la fece entrare perché era amico del console, e poi da lì iniziò una serie di viaggi che per più di 30 anni della sua vita la portarono in giro per tutto il mondo arabo, quindi dalla Giordania alla Siria, ma fino ad arrivare all'Arabia Saudita, viaggiando da sola con 3 o 4 guide che lei prendeva tra gli ali del posto, quindi da sola con uomini del posto, con i cammelli, facendo queste spedizioni lunghissime in mezzo al deserto con le tende e andando a visitare, riuscendo a farsi ricevere dai capi sceicchi, dai capi beduini. All'epoca era prima di Churchill, quindi quando il mondo arabo non esisteva, perché fu lei che aiutò Churchill a creare gli stati arabi, a creare la Siria, a creare la Giordania, la Transgiordania, la Cisgiordania e l'Arabia Saudita, lo Yemen, eccetera, eccetera, perché nessuno meglio di lei conosceva le tribù, sapeva, e il mondo arabo era completamente diviso nelle tribù dei beduini che si spostavano a seconda delle necessità degli animali, perché dovevano portarli a bere, a proposito. Quindi lei, che aveva girato a sue spese da sola, completamente, anzi, osteggiata dai vari governi, dalle varie polizie, soprattutto soprattutto dal governo britannico, che non voleva assolutamente che una donna viaggiasse da sola, a quei tempi nel deserto, sui cammelli e soltanto aiutata da uomini arabi, che le facevano, dopo lei ha imparato la lingua, però inizialmente le facevano anche da interprete. Quindi immaginate il coraggio incredibile di questa donna, che oltretutto scalò le montagne più alte delle Alpi da sola. Era veramente una forza della natura, non si sposò mai, era una bellissima donna. E qual è la particolarità? In realtà poi non è assolutamente conosciuta nell'illuminata scuola, ma fu lei che aiutò Churchill, che fece sulla cartina, che creò gli stati dell'Arabia dopo che la Turchia fu sconfitta nella guerra, e quindi la Turchia, l'impero ottomano, si dovette liberare. Vuoi venire? Vieni qua, qui c'è l'Arietta. Quindi la Turchia liberò, l'impero ottomano liberò tutti gli stati arabi che erano stati sotto il suo dominio fino a quel momento, lasciando un grandissimo vuoto, perché l'impero ottomano praticamente, cioè i turchi, praticamente avevano conquistato dalla Romania, dalla Transilvania, cioè il principe Vlad di Dracula combatté ben contro i turchi ottomani, aveva conquistato la Bulgaria e gli aveva sottomesso la Bulgaria, l'Armenia, così fino all'Arabia Saudita praticamente. Perciò l'impero ottomano lasciò questo enorme vuoto istituzionale che fu riempito grazie a Gertrude Bell, che creò gli stati arabi. Quindi un ruolo di statista effettivamente che non le fu mai riconosciuto, non viene studiata a scuola, quasi nessuno la conosce, io stessa non la conoscerei se non avessi visto il bellissimo film. Dopo sono andata a cercarmi in biblioteca perché vorrei leggere il suo diario Viaggio in Siria, purtroppo alla biblioteca del ministero qualcuno se l'è fregato, per cui allora risulta in catalogo, ma nello spazio c'è il vuoto e non c'è, quindi io al momento non ho possibilità di comprare i libri. Se per caso qualcuno scopre nella sua biblioteca Viaggio in Siria di Gertrude Bell e vuole prestarmelo, io lo vorrei leggere per la scuola delle donne. Quindi che cosa accomuna queste tre, Gertrude Bell, Marie Curie e Rosa Luxemburg? Che nessuna di loro mai lottò o si affiancò nella lotta per il suffragio alle donne, il che è stranissimo se ci pensate. E io non so Marie Curie, però so che a Gertrude Bell e a Rosa Luxemburg fu chiesto chiaramente come mai non sostenevano la lotta del momento, che era la lotta del suffragio, no? Cioè, sarebbe quasi sembrato scontato che donne così in vista sostenessero il voto alle donne, no? Invece loro non lo fecero mai. E ieri mi è arrivato il flashone. Prima però di dirvi la mia visione, perché chiaramente non è la verità, è la mia visione, vorrei sentire voi, se vi viene in mente qualcosa così a livello istintivo senza pensarci troppo. Visto che sono tutte donne comunque che hanno praticato tanto la via dell'emancipazione e dell'indipendenza femminile. Qualche idea? Any idea? Non so, perché mi viene in mente un passaggio delle tre linee, credo che sia di Virginia Woolf, in cui parla della ragione per cui una donna dovrebbe leggere tre quotidiani, tre riviste per volta, il fatto di farsi una visione che possa essere tra virgolette più realistica possibile riguardo allo stato delle cose e che sia pure non filtrata da altri, e giunge alla conclusione che in realtà anche con questo chiamiamolo stratagemma non sia possibile farlo, perché comunque tutto ciò che accade all'interno di una società e a vari livelli della popolazione è comunque in un certo modo sempre diciamo inquinato da quelli che sono gli interessi altrui, che sono comunque sempre portati avanti da uomini generalmente. Ora sto mettendo le idee insieme così adesso senza un senso logico. E questo è il senso della nostra scuola. Mi sta proprio venendo in mente ora che forse anche quando Virginia Woolf parlava di questo, parlava del fatto che pur dando la possibilità di votare alle donne, in realtà fino al momento in cui non si fosse giunta una vera emancipazione delle donne ed equiparazione dei sessi, comunque le donne potevano sì avere il diritto di voto, ma semplicemente per votare un altro uomo che avrebbe comandato. Sì. mi viene un po' questa cosa, cioè, che non è questa cosa. Bello, però Virginia fece il suo pezzo comunque nel sostenere il movimento suffragista. Invece, quindi è giusto, però allora come mai invece Virginia lo supportò, non si tirò fuori? Forse lei sentì comunque di dover iniziare da qualche parte. O ci troviamo, andiamo a sentire Virginia. Nel senso, è una buona interpretazione, sì. Cioè, magari Virginia Woolf ha pensato, va bene che non possiamo raggiungere tutto in un momento, ma almeno un passettino lo facciamo. Forse c'era più remissione, più disincanto da parte di Rosa Luxemburg o di Gertrude Bell in questo senso, che non sostenere il movimento, mentre Virginia ci credette un po' di più sul lungo periodo. Questo poi lo chiederemo a loro durante la meditazione finale. E vi do la mia visione, è assolutamente non ortodossa. Io ho capito ieri che queste tre donne erano talmente indipendenti da non avere nemmeno bisogno di affermarlo. Cioè, quando noi chiediamo qualcosa che non abbiamo, stiamo alimentando cosa? L'idea di qualcosa che non abbiamo. Brava, peccato che non l'hai detto, mi credere di più in te stessa. Sì, cioè c'è comunque una forma di vittimismo, no? Per carità, ammirevolissimo, io adoro Virginia Woolf, adoro le donne che hanno lavorato per il suffragismo, non sto giudicando in questo momento, però mi sto rendendo conto che ci sono state evidentemente queste tre donne, l'hanno talmente incarnata l'emancipazione dentro di loro. Perché, cioè, pensate che Gertrude Bell che girava da sola nel deserto coi cammelli, pensate a Marie Curie che scopriva il radio e l'unica donna che ha preso due Nobel, pensate a Rosa Luxemburg che in mezzo erano solo uomini che parlavano, che facevano comizi, lei andava a fare comizi in piazza parlando di politica, di economia e di sociologia, quindi assolutamente, però tre donne non che hanno vissuto da uomini, perché hanno vissuto da donne, ma tre donne che hanno incarnato in modo totale l'indipendenza e l'emancipazione, per cui per loro era del tutto superfluo rivendicarlo, lo stavano già vivendo. Questa è la spiegazione che mi sono data io, che è uno step in più ancora, e forse dovremmo anche noi provare a assistere. Io ancora non sono pronta, cioè sento che ho ancora bisogno di rivendicare, sento che ancora non sono pronta per... probabilmente c'è ancora una parte di vittimismo dentro di me che vuole essere riconosciuto. Vorrei dire una cosa. Vai, no, ho finito. Ho pensato a questa cosa perché è sempre stata la visione di mia mamma, che è sempre stata una donna. A proposito. Appunto, a proposito di antenati, sì, no? È sempre stata una donna che per il femminismo ha letto tantissimo, si è battuta, eccetera, eccetera. E per esempio, lei mi ha passato questa cosa di non festeggiare la festa della donna perché sosteneva che ci fosse del vittimismo nel chiedere di rivendicare una giornata quando in realtà, caspita, è tutti gli altri giorni, no? Non voglio una giornata, tu mi rispetti tutti i giorni, non solo. E io sono cresciuta più con quell'idea di non rivendicare perché significava alimentare il vittimismo e comunque alimentare tutto un processo negativo. Comunque, cioè, se tu vedi e riconosci un processo negativo, tu poi gli stai dando energia, lo stai riconoscendo. Però a un certo punto della mia vita, io mi sono resa conto che in fondo era il mondo che non era prodotto per questa forma. Nel senso che finché c'è uno schiacciamento femminile, questa non è la forma, secondo me, adatta per esprimere questa rivendicazione. Cioè, per non rivendicare non è la forma adatta. Perché se no, in effetti, comunque vai a alimentare, sembra che tu sei d'accordo. In effetti, se non ci fosse stato il movimento delle suffragiste, la donna continuerebbe a non poter possedere, per esempio, beni, continuerebbe a non poter ereditare. Cioè, prima del movimento delle suffragiste, prima che venissero riviste le leggi sulla proprietà privata, anche le vedove erano in pericolo. perché le vedove che non avevano più i mariti a mantenerle vivevano della carità dei figli. Se voi avete presente, per esempio, Ragione e Sentimento di Jane Austen, è esattamente quello che succede. Muore il padre, la madre e le figlie devono sloggiare perché la casa va al figlio maschio, il figlio maschio non le lascia dentro. Avete presente? Sì, sì. Quindi lì e quello era quello che succedeva, quindi in realtà il movimento delle suffragiste serviva. Quindi io ho la sensazione che servano tutti e tre gli step, sia quello silenzioso, sia quello rumoroso, sia quello. Probabilmente ognuna di noi ha momenti della vita in cui incarna questo, questo, quest'altro. È bene riconoscere, perché a me quando ho letto che Rosa Luxemburg, queste grandi donne, ma anche Margherita Corrette, per esempio, vissuto nel Medioevo, è stata bruciata come strega, pochissimi la conoscono, ha scritto il Paradiso delle Anime Semplici, non è sicuramente vissuta in epoca suffragista, è vissuta nel Medioevo, ma secondo me fa parte di questo terzo modo, quello come l'ho chiamato, la rivoluzione attuata, perché lei fu denunciata, finì davanti al tribunale dell'Inquisizione, si rifiutò di rispondere alle domande degli inquisitori. Cioè lei disse: voi non mi rappresentate nessuno, io non vedo perché vi devo dare risposta. Per me voi non siete nessuno, non avete neanche il diritto di stare a farmi domande. Se siete lì voi a fare domande a me è perché state usando la forza, non perché state usando un diritto. Ovviamente finì denunciata, è chiaro. Però voglio dire, fu la coerenza. Giovanna d'Arco a un certo punto si fece prendere dalla paura, quindi ritrattò, però poi ritrattò la ritrattazione. Margherita Corrette andò decisa, secondo me era talmente coerente, talmente centrata, talmente decisa sul suo diritto che non sentì nemmeno le fiamme, cioè era ad un altro livello, era fuori, era entrata nel Nahual. Quando io credo che sia possibile, come quando si va a camminare sui carboni ardenti, qualcuno di voi ha camminato sui carboni ardenti? Beh, io l'ho fatto forse una sessantina di volte, vi garantisco che quando si va pronti con i piedi sui carboni non si sente neanche tiepido, sembra di camminare sulla spiaggia. Quindi come mai il corpo ha questo cambiamento? Perché ci si trasferisce su un'altra frequenza, su un altro livello di coscienza, si sta in quel momento riprogrammando il corpo, invece di essere nella programmazione che il corpo si brucia se viene a contatto con una fonte di calore, si è sulla programmazione che il corpo è pura energia, quindi non si può bruciare. Io credo che Margherita Corrette, tante insieme a lei, che i Catari per esempio, che preferirono andare tutti quanti sul rogo, no? Donne e uomini, invece di ritrattare, credo che avessero trovato il modo di cambiare frequenza, per cui quel corpo che mettevano sul rogo non era nemmeno più sensibile. Giordano Bruno penso anche che sia stato uno di questi, però qui stiamo andando fuori da... Posso dire una cosa che mi ha colpito molto, che non c'entra niente con le donne letterate, però per esempio in questi giorni la nazionale femminile di calcio secondo me ha fatto tantissimo, perché queste donne che hanno sdoganato uno sport tipicamente maschile, con la loro bravura, la loro credo fortissimo, hanno zittito gli uomini, li hanno incantati, cioè sono entrate nel mondo maschile e hanno affascinato, hanno aperto il riconoscimento per esempio dello sport professionista. Le donne sportive non sono professioniste, sono dilettanti. Il loro esempio silenzioso, allegro, sorridente, cioè il loro proporsi... Il casino l'ha fatto. No, ma è molto positivo, cioè la loro squadra, adesso stanno mettendo in discussione questo fatto che le donne non sono professioniste e quindi stanno rivendicando dei diritti, ma in modo bello. Sì. Io che vedo gli uomini, tipicamente, no, calcio maschile, invece... come dire, in accettazione di questo fenomeno, quindi a loro modo, in una maniera molto piccola, però a me è piaciuto molto. O Carla Rackete, questa straordinaria, che ha osato sfidare tutti e tutto, e... cioè esempi di donne che... Beh, poi bisogna vedere anche che cosa si muove, c'è anche tanta propaganda sul transgender, so, quindi lì non, io non lo so, non dico sì, però figure che... di donne determinanti, sì, secondo me, stanno... Una cosa che mi verrebbe da aggiungere alla questione è, come diceva Valentina, non siamo ancora pronti per accontentarci del viverlo e dell'essere esempio, sicuramente è una parte del lavoro, ma tante volte io credo sempre che a tante sorelle si debba dare anche la propria testimonianza a parole, testimonianza anche in piazza, qua mi serve, perché dobbiamo ancora farci sentire in un certo qual modo, perché tante vivono in un mondo che lo chiude e magari hanno davanti l'esempio ma non sono pronte a coglierlo perché mancano loro tanti strumenti, tante possibilità. Anche spesso è proprio una mancanza di coraggio, perché siamo da talmente tanti millenni addestrate alla paura, addestrate al rogo, che io credo che sia proprio anche una... Credo di essere una donna coraggiosa e non ho mai rifiutato di combattere per le mie idee, però tutte le volte devo fare i conti con la paura. Cioè il mio coraggio non è esente da paura, no? Io me la faccio sotto tutte le volte che devo alzare la voce e sto male per giorni, devo prendere la valeriana, eppure a vedermi sembro la quintessenza del coraggio. C'è sempre una parte dentro di me, ma credo dentro qualunque donna, adesso se mi sta venendo da piangere, vuol dire che la memoria atavica dei roghi, per cui il ricordo ancestrale che tutte le volte che abbiamo usato fiattare siamo finite nelle fiamme, quella roba lì, le donne ce l'hanno tutte. Gli uomini alcuni, molti, non tutti, ci sono molti uomini che invece in realtà, anzi, ci sono anche donne che, anzi. Io penso che sempre ci sia una dose di paura che le donne devono affrontare per tirar fuori la loro voce. Quindi a maggior ragione veramente onoriamo queste donne straordinarie, perché hanno dovuto comunque fare i conti con la paura di essere zittite, con la paura di essere ancora denunciate, che è lì. Che io non so se conoscete Giuliana Conforto, l'avete sentita nominare, astrofisica contemporanea. Ha scritto l'EUAC, il gioco cosmico dell'uomo, cioè lei è una studiosa, è una scienziata, era insegnante di fisica meccanica alla Sapienza di Roma, l'hanno buttata fuori e è andata a insegnare all'Aquila, all'Università dell'Aquila, e lei ha scritto un libro su Giordano Bruno, spiegando le ragioni dal punto di vista di Giordano Bruno, così come stiamo facendo. Spiegare le ragioni delle donne dal punto di vista delle donne, e raccontava, non mi ricordo se l'ha raccontato a me personalmente al telefono o se l'ha raccontato nel suo libro, c'è stato un momento della mia vita in cui lei abbiamo avuto una relazione abbastanza serrata che poi si è interrotta, e mi diceva che un giorno era seduto a un bar con una sua amica e parlava di quello che era successo, perché poi è stata anche incriminata e hanno trovato delle prove in caso di vita sotto processo come connivente con le Brigate Rosse, bla bla bla, invece in realtà è stata una trappola, lei ha fatto una trappola, quindi ha dovuto difendersi da processi pesanti anche, e raccontava che questa sua amica le diceva: per forza fai fatica a parlare, hai ancora paura di essere processata, riferendosi al processo delle streghe, no? E Giuliana raccontava che in quel momento lei è scoppiata a piangere. Quindi abbiamo questa memoria dentro di noi, ancora dobbiamo tutte le volte vedercela con la paura di essere denunciate. E forse, questo sta avvenendo adesso, in realtà è risvegliare le memorie delle antenate, il ritrovare le nostre radici, la nostra forza, ci serve anche a questo, a farci avere un po' meno paura di dire quello che pensiamo, di non dover tutte le volte cavare fuori il coraggio da chissà dove. Io vedo che mi costa sempre più fatica, sono sempre più, invece di diventare sempre più forte rispetto alle critiche, rispetto alle accuse che mi arrivano tutti i giorni, sono sempre più debole, faccio sempre più fatica a reggere botta. Per cui evidentemente non ci ho per niente fatto il callo, e anzi più divento anziana e meno ci faccio il callo. Avrei sempre più voglia di essere sostenuta con dolcezza piuttosto che essere criticata, essere bastonata. Francamente dopo 50 anni non ne posso più, ho voglia di dolcezza, anche di confronto, ma di confronto con dolcezza. Posso dire? Certo. Una cosa che di cui parlavamo io e lei lo scorso weekend, dopo aver fatto un ritiro molto particolare, è stata una sua percezione, che però si riconferma in quello che stai dicendo tu, ed è che in un qualche modo sono proprio fasi della vita, io credo, e c'è una fase della vita in cui noi giovani apprendiamo, c'è una fase della vita in cui sempre, cioè siamo più giovani, poi a questa età secondo me è la fase in cui si rivendica tanto, e per proprio una questione di flusso di energie, no? Quindi nel momento in cui adesso hai le conoscenze necessarie per poter alzare la voce senza sembrare una stupida, perché comunque se non sai è più difficile, e hai anche le energie necessarie per sostenerlo, per sostenerti anche delle accuse o comunque delle frecciate che vanno dritto al punto, insomma. E invece è come naturale che nella fase comunque dell'anzianità, anzianità, nella fase comunque in cui diventiamo anziane, è più normale, secondo me, che si tende semplicemente a Madonna mia, scusate, oggi, comunque ad avere delle idee senza magari guardare, magari c'è chi per noi di farlo, perché penso che sia proprio naturale, questo calano le energie, cala la voglia di esporsi, cala la capacità di proteggersi, e è come se ci fosse un passaggio a un certo punto, no? In cui le anziane passano a quella della fascia di mezzo, il portare avanti questa cosa, per questo poi quelle della fascia di mezzo devono rivendicare molto, perché devono insegnare a fare dietro. No? Il triplice volto della dea. Esatto. Bello. Che bello! Wow. Vediamo se riusciamo a sforare anche oggi. Bene. Un'altra donna che ha vissuto in questo modo è Susanna Ladonni, che vedremo dopo, che è una pittrice, non è una scrittrice, che visse proprio in maniera totalmente indipendente, infrangendo tutte le regole, ma a differenza di Camille Claudel, che invece fu molto molto vittima e infatti fece una fine orribile, Susanna Ladonni fece in maniera molto serena, molto positiva, e infatti visse molto bene. Stesso talento, stesse possibilità, una finisce malissimo, l'altra invece finisce bene. Io credo che siano legittime tutte e tre, quindi giustamente ognuna di noi si colloca in quel momento. Io credo che arrivi un momento in cui sia importante smettere di fare violenza a se stesse e cominciare a offrire i propri talenti al disegno comune, che è il risveglio della dignità femminina, ma a farlo senza più sforzo, cioè a farlo nella leggerezza, nella gioia, facendo quello che ci fa star bene, che può essere utile ma che contemporaneamente ci fa star bene. Virginia in effetti in un momento, punto del suo, non ricordo se era a Trevinè o se era una stanza tutta per sé, perché li ho letti molto insieme, li ho molto intersecati, secondo me i due lavori vanno abbastanza di pari passo, dice: forse dobbiamo biasimare la campagna per il voto alle donne. Ah, lo dice in Trevinè perché parla della guerra, no? E quindi dice: il voto alle donne e l'istruzione alle donne non fa nient'altro che insegnargli la cultura patriarcale, per cui alla fine sosterranno la guerra invece di mettersi contro la guerra. Quindi lei stessa a un certo punto, Virginia, ha dei dubbi, no? E io credo che sia per quello che alla fine si è suicidata, perché alla fine non sapeva più nemmeno lei se era giusto quello che aveva fatto finora o se non lo era, perché io stessa vedo quello che è stato fatto, vedo quello che faccio, che facciamo e quello che c'è ancora da fare, veramente mi chiedo se stiamo andando davvero da qualche parte o se stiamo semplicemente sprecando energie continuando ad alimentare rivendicazioni, polemiche, violenze, non lo so, non ho capito francamente se c'ero dormivo, come dice qualcuno, o anch'io in questo momento sto studiando tanto, ma perché non ho per niente le idee chiare, nemmeno io. L'unica cosa che so chiara è che dobbiamo continuare a leggere e a ridare voce a queste donne. Dove ci porterà questo, francamente non lo so, perché mi pare che ci sia una grossa fetta del pianeta che sta tirando totalmente dall'altra parte, che sta lottando per togliere alle donne i diritti che hanno faticosamente rivendicato. Per cui mi sto chiedendo, cioè, com'è possibile, no? Evidentemente se la storia non è lineare, come noi diciamo, ma è spiraliforme, arriva un momento in cui si torna indietro. C'è confusione, sì. Anche, soprattutto se ripete alla fine continuamente in questa dimensione, voglio dire, forse in questa dimensione dove siamo adesso non ne verremo mai fuori, ed è sempre più, per me è sempre più chiara, nel senso che dico, non è qui che dobbiamo lottare. Non fa parte di questa dimensione, qui siamo dentro questa spirale e rimaniamo dentro la spirale, questo gioco virtuale, non so come chiamarlo, ma lo sento sì. Molto forte. Non vedo una via di uscita qui no. Sulla terra, no. però è una mia visione, è un mio divagare. No, sono d'accordo con te, il fatto è che comunque io non riuscirei a starmene con le mani in mano, ma neanche tu, perché sennò non porteresti i gruppi. No, ecco, quindi l'idea è come mi gestisco io nel fare quello che ritengo giusto, ma senza aspettarmi, lo faccio perché non posso fare a meno. Esatto, mi fa stare bene. Ma, esatto, perché mi fa stare bene, ma senza aspettarmi comunque che... Che in questo momento mi fa stare bene, mi fa superare quella tristezza, quella malinconia che comunque ho dentro nel sapere non so se lo so, ma comunque nel percepire che non è qui che io riuscirò ad avere o a ottenere l'illuminazione, se vuole parlare di quella, insomma, posso andare risveglio, dai, sì. È quella cosa più giusta, la parola risveglio. Sì. Non è qua, no, qua ci sarà sempre una vita in un carnefice. Credo che Virginia abbia alla fine lo sapesse, ma che abbia continuato comunque fino all'ultimo a scrivere e a parlare in pubblico perché non poteva farne a meno, cioè era il suo. Era la sua cosa. Sì, esatto. Ma anche perché se ci si arrende. Vedi? No, vedi le due età, giusto? Esatto. Ah, è perfetto quello che state dicendo. Lei è in un'età, tu sei in un'altra, quindi è ovvio che lei dice una cosa e tu un'altra, ma la cosa bella è che siamo sedute qui in cerchio. Infatti io dico le mie figlie, ho 60 anni quest'anno, e dico le mie figlie. Non sembrava. No, è il vostro momento. E nonna. Fate voi la guerra, cioè sì, la guerra. Sì, no, la rivendicazione. In senso buono, no? Fate, portatelo avanti voi. Già sulla metà, averne cresciute tre, dico, l'ho già fatta. E la nipotina. E tra l'altro adesso arriverà la nipotina. E io sono stata, lo pensavo questa notte, sono stata la figlia ribelle, sono stata la mamma ribelle, sono stata la moglie ribelle, perché comunque quando decido di andare, lascio a casa tutti, parto e vado. Quindi, senza marito. Senza marito, beh certo, sì. Quindi nel mio piccolo, e questo lo faccio, uno perché fa stare bene e ne ho la necessità di questa cosa, ma per far vedere qualcosa di diverso alle mie figlie, che non c'è solo. Beh, sei ribelle anche nel senso che scegli il cammino alternativo a Compostela, non è che porti i cammini sul certo. Cammino francese, certo. Quindi anche in quello sei ribelle, ma è un modo diverso comunque di... Però pacata la cosa, capisci? Non è la voglia di uscire nella piazza e fare il calcio. Ma è parte della testimonianza, certo. Secondo me, della rivoluzione. Però ho avuto, come diceva Valentino, ho avuto proprio chiara la visione del lascito a un certo punto. Cioè nel corso, quando si pensava, no, a come le donne più anziane di noi ci insegnano, a come noi insegniamo alle donne nostre pari e qualcosa portiamo anche alle anziane, perché comunque è uno scambio. L'intuizione di cui parlava lei prima mi è partita pensando al fatto che avessi avuto coscienza di tante cose un bel po' di anni fa, avrei fatto tante scelte diverse, però mi sono detta, io credo che non sia possibile prima dei 30 anni essere cosciente di determinate cose. Secondo me bisogna proprio passare esattamente tutto questo e arriverà il momento in cui anche noi ci siederemo e parleremo senza andare in piazza o senza fare altre cose che facciamo ora, però ho avuto proprio la visione netta di questa cosa. Sì, sì, perché infatti le ragazzine di 20 anni che vanno a rivendicare in questo momento lo fanno secondo me in modo troppo violento, cioè non so neanche fino a che punto hanno capito cosa, perché si stanno mettendo dalla parte proprio nei panni di quelli. quella violenza e di quella prevaricazione. Che sono maschili. Esatto, esatto. Bene, allora apriamo oggi. No, ma è giusto, deve essere. Certo. Mi pare che noi donne dobbiamo smettere di lottare, anche di non usare più neanche le parole lottare, ma che sia il momento giusto, il momento opportuno per creare qualcosa di nuovo, che non so che cosa sia, però mi viene in mente, no, la storia della centesima scimmia, no? Che anche quelle, le scimmie dell'isola vicina, poi si mettono a lavare le patate pur non avendolo visto. Ecco, come se a ciascuna di noi toccasse creare qualcosa di nuovo dentro e poi irrimediabilmente si ripercuote anche su chi magari non ci stanno lavorando. Mm-hmm. No? Sì. Certo. Che cosa? Cosa abbiamo per scoprirlo? Allora, partiamo con le parole di Mary Wollstonecraft, perché Mary Wollstonecraft piacque moltissimo Virginia. Io potrei dire che Mary Wollstonecraft rappresentò la parte guerriera di Virginia Woolf. Poi vedremo anche forte la relazione con Catherine Mansfield, che di cui parliamo dopo, vi accenno dopo, perché anche Catherine Mansfield fu molto collegata. Sono le due donne che lei ha come riferimenti, Mary Wollstonecraft e Catherine Mansfield. Mary Wollstonecraft dice, nel suo sui diritti delle donne, desidero esortare le donne a impegnarsi per acquisire forza, sia fisica che mentale. Intendo essere utile e la sincerità mi salverà dall'affettazione. Non sprecherò il mio tempo ad affinare frasi. Mi occuperò di fatti, non di parole. Le donne sono in vero così tanto degradate dalle nozioni di eccellenza femminile, chiaramente in senso patriarcale, l'eccellenza femminile, ossia ben vestite, ben pettinate, ben che sappiano suonare il pianoforte piuttosto che ricamare, quell'idea di eccellenza femminile, che non credo di esprimere un paradosso dichiarando che questa debolezza artificiale, le donne erano tenute in modo artificiale in quello stato di debolezza, gli era impedito di andare a fare ginnastica, era impedito di uscire, cioè venivano tenute chiuse in casa. Esatto, chiuse in casa, che chiaramente i nervi davano di matto, perché non potevano fare attività, le ragazzine non potevano scaricare le loro energie, no? Perché non stava bene che le ragazze uscissero. Quindi lei dice, questa debolezza artificiale genera astuzia, cioè l'astuzia che viene imputata alle donne dai detrattori, da quelli che parlano male delle donne, è un prodotto del fatto che le donne non possono scaricare fisicamente i loro... Non so se qualche volta avete partecipato a quei corsi di self-help dove ti danno un cuscino, un battipanni e ti dicono pensa a qualcosa che ti fa arrabbiare e ti fanno picchiare il battipanni finché, sul cuscino finché non hai scaricato tutta la tua rabbia, no? Perché in questo modo la scarichi. Se invece te la tieni dentro, cosa succede? Che rimugini e ti rodi. Ecco, questo è quello che intende dire Mary Wollstonecraft, cioè l'astuzia femminile è un prodotto del fatto che le ragazze non erano libere di fare attività all'aria aperta, di fare canottaggio piuttosto che andare a cavallo, quello che potevano sì passeggiare, ma anche lì con le scarpettine, con le gonnelline, a cavallo potevano andare solo con le gambe tutte due da un lato, quindi non potevano galoppare perché sennò cadevano di sella. Ecco, l'astuzia, lei dice, è la rivale naturale della forza. Dove può essere esercitata la forza fisica, ossia l'esercizio fisico, l'astuzia non trova alimento, perché le persone che fanno esercizio fisico sono sane, qualsiasi esercizio si tratti, le persone sportive sono più sane mentalmente di quelle represse, no? E poi, chiaramente, questo discorso che vi ho letto non è tutto filato, ho preso del pillole, le ho messe tutte insieme e concludo con le parole di Mary che dice diventino gli uomini più casti e modesti, cioè alla fine aiutateci anche voi, perché se no, se voi non siete più casti, le donne in qualche modo devono continuare a proteggersi dai vostri assalti, per cui devono per forza essere delle donne castigate, altrimenti perdono il loro onore. Ecco. Queste donne di cui parliamo oggi, Camille Claudel e Suzanne Baladon, che sono due artiste, vissero più o meno 60 anni dopo George Sand, che abbiamo trattato l'altra volta e l'abbiamo trattata in modo molto esauriente. Il messaggio di queste donne, di queste due artiste, è secondo me che al di là della loro opera della loro opera artistica. Camille Claudel fu una scultrice, Suzanne Galadon fu una pittrice, anche se nessuna delle due viene ricordata per lo più come artista, ma Camille Claudel viene per lo più ricordata come la sorella di Paul Claudel, poeta, e come l'aiutante e l'amante di Auguste Rodin, e Suzanne Baladon viene per lo più ricordata come modella e amante di Degas, di Toulouse-Lautrec, di Renoir, di tanti, come la madre di Maurice Utrillo, perché lei fu madre anche di un artista, di un pittore conosciutissimo del periodo impressionista che era Maurice Utrillo. Quindi anche lei non ha una sua collocazione come artista. Tutte e due queste grandissime artiste sono sempre un madre, un uomo e sorelle, non hanno mai il loro ruolo come donna protagonista nel mondo dell'arte. E scusate, ma mi è venuto a toccare il braccio Valentina, perché nel parlare di queste questioni ruoli mi è venuto in un momento un flash che riguarda lei, però è una sua questione personale, quindi gliela dirò. Però ho avuto proprio ok, adesso siamo curiosissime e tutto, dopo ce la dici, se è una roba che si può condividere, se lei è d'accordo. Quindi il messaggio secondo me che arriva da queste due donne, che sono tutte e due donne tra l'altro morte in là con gli anni, quindi Camille Claudel è morta a 79 anni nonostante abbia passato metà della sua vita in manicomio, perché il fratello la fece rinchiudere, la sua figura era imbarazzante per la famiglia. E Suzanne Baladon morì a 73 anni, però Suzanne Baladon visse bene, fu molto, chiaramente anche lei molto osteggiata dalla critica del tempo e dalla gente del tempo, ma lei se ne infischiò. Entrambe hanno un filo comune, queste due donne, queste due grandissime artiste, che hanno dipinto e scolpito, no grazie, il nudo femminile. Nessuno prima di loro lo aveva fatto. Le pittrici prima di Suzanne Baladon non avevano dipinto nudi femminili. Queste due donne, Camille come scultrice e Suzanne come pittrice, io ho preso qualche, dopo vi faccio vedere qualche immagine, non ebbero nessun problema a mostrare le donne anziane nella loro nudità, perché loro stesse divennero anziane. Quindi Camille Claudel dipinse quella meravigliosa, scolpì quella meravigliosa statua della donna anziana, dove si vede chiaramente, si vedono le natiche cadenti, si vedono i seni cadenti, le rughe sotto, che secondo me è di una bellezza, perché io ci sento tanta tenerezza e tanta compassione in questa donna nuda, che peraltro non è ferma, è in movimento la figura, è come se stesse camminando, no? Quindi è ben lungi dall'essere una donna perdente, nonostante sia stata scolpita la nudità di una donna anziana. E Suzanne Baladon addirittura raggiunse il livello di, per questo l'ho messa nella rivoluzione, nel terzo tipo di rivoluzione, quella attuata, lei dipinse se stessa a 60 anni, quindi con le tette molli, con la pappagorgia, si vede che si tinge i capelli, cioè si vede che i capelli non sono più il suo colore. Un atto di eroismo incredibile. E lei, Suzanne Baladon, ha dipinto tantissimi nudi, fu considerata, entrambe esposero al Salon d'Automne e esposero anche in altre situazioni, Camille fino a che non fu internata in manicomio, che questo le successe intorno ai 30 anni, perché cominciò, ebbe una relazione di 15 anni con Rodin, che però aveva un'altra compagna ufficiale, quindi Camille dopo 4 aborti si rese conto che Rodin non l'avrebbe mai riconosciuta né come compagna ufficiale, nonostante tutti lo sapessero, ma neanche come coautrice della maggior parte dei suoi lavori, perché Camille scolpiva parti delle statue che poi Rodin assemblava. E Rodin questo non glielo riconobbe mai. Non so se avete presente, di recente è uscito il film su Colette, a fine dell'anno scorso è uscito il film Colette, interpretato da Keira Knightley. Colette è un'altra scrittrice francese dei primi novecenti, sto leggendo adesso il suo La Vagabonda, anche se non mi piace molto, vabbè, preferisco George Sand, preferisco cose un pochino più costruttive che non romanzi che parlino di come passavano le notti nei teatri. Però è interessante la storia di Colette, perché i primi romanzi, le storie di Claudine che lei scrisse, furono pubblicate a nome del marito. Il marito praticamente le rubò totalmente i suoi scritti, li firmò col suo nome e si prese i soldi. E il marito, che era un tale Willy e qualche cosa, che era un furbacchione, si è accorto che la moglie aveva la penna facile, non aveva nessun pudore nel continuare a sostenere di fronte a tutti che era lui l'autore e nel prendersi gli elogi, nel firmare gli autografi, con una spudoratezza, fino a che lei non si rese conto. A un certo punto si svegliò, ma si svegliò non tanto perché stiamo parlando di una delle figure più emblematiche dell'emancipazione femminile, Colette, dell'emancipazione femminile francese nei primi anni del Novecento, quindi che si vestiva da uomo, che aveva relazioni anche omosessuali, che fumava il sigaro, che viveva da sola, che andava in giro di notte. Nonostante tutto questo, lei non cominciò a rivendicare i suoi romanzi perché si era resa conto di averne il diritto, semplicemente si era stufata che il marito la tradisse. Quindi la sua motivazione era questa, vendicarsi del fatto che il marito le metteva un sacco di corna. Non una motivazione artistica, quindi rendetevi conto di quanta strada abbiamo da fare, accidenti. Vale, il fattore scatenante per Colette è stato questo, vendicarsi del corna del marito. Non, quindi questo è stato semplicemente lo strumento per vendicarsi del marito. Ecco, allora, Camille Claudel a un certo punto cominciò a ribellarsi del fatto che Renoir, oltre a non riconoscerla come compagna, quindi oltre ad averla lasciata abortire, perché chiaramente non riconoscendola come compagna, c'è da dire che Camille era di buona famiglia. Veniva da una famiglia molto agiata dell'alta borghesia, quindi aveva ricevuto l'educazione di una ragazza per bene. Al contrario, invece, Susanna la donna, e viveva in casa, Camille viveva in casa mentre aveva questa relazione con Rodin. Quindi tutto il mondo sapeva e la sua famiglia si sentiva, il fratello era ambasciatore, era cristiano cattolico, era un poeta, quindi la famiglia di Camille non poteva sopportare che la ragazza avesse scandalo. Quindi lei mollò la famiglia, andò a vivere da sola, solo che non riusciva a vivere del suo perché nessuno le riconosceva il suo lavoro. Tutto veniva riconosciuto a Rodin, quindi lei praticamente in poco tempo che riuscì a vivere da sola e facendo questa guerra, a proposito, perché le sue opere fossero riconosciute, soltanto di recente a Parigi è stato aperto un museo Camille Claudel nel luogo dove lei nacque, perché fino ad allora semplicemente Camille aveva una piccolissima sala che io sono andata a vedere a Parigi, mi si sono piegate le ginocchia di fronte alla disperazione, alla bellezza di questi suoi lavori, una piccola sala all'interno del più vasto e ampio spazio dedicato a Rodin, che sapete è l'archetipo degli scultori, Auguste Rodin, quello per forza l'avete sentito nominare. Ok, quindi Camille tenta di rivendicare il suo lavoro, va a vivere da sola, ma sopravvive in miseria perché la famiglia la disconosce, non l'aiuta, e lei sopravvive disegnando bozzetti per i portaceneri, per i paradini. Susanna invece, che era figlia di una lavandaia e figlia di padre ignoto, era abituata alla strada. Infatti a 15 anni era già la modella più richiesta, a parte che era molto bella, erano tutte e due molto belle, però paradossalmente Susanna fu avvantaggiata dal fatto che, avendo avuto origini umili, sapeva stare sulla strada, sapeva far valere i suoi diritti, mentre Camille no. Oltretutto Susanna non doveva rendere conto a una famiglia delle sue scelte, se ne fischiava, andava per la sua strada, tant'è vero che a 15 anni era già la modella più richiesta da Renoir, da Degas, da Toulouse-Lautrec, da tutti i pittori dell'epoca, e fu l'amante di quasi tutti, dipinse, non vendette quasi niente nella sua vita, vendette pochissimo, anche quel poco che vendette lo vendette a prezzi veramente ridicoli. Adesso un po' le sue opere si sono rivalutate, ma comunque pochissimo rispetto al valore delle opere, per esempio, di Maurice Utrillo, che era suo figlio, no? Che secondo me dipinge una cosa, sua madre dipinge una cosa molto più bella. Però sappiamo che l'arte femminile non è un investimento, per cui non, al momento la via è quella, le donne non vengono valutate. Quindi lei Suzanne fu autodidatta, nessuno, mentre Camille andò a scuola, andò a scuola da Rodin, fu prima allieva di Rodin e poi passò a farsi le sue cose. Suzanne fu totalmente autodidatta, dipinse delle cose bellissime nell'ambito dell'impressionismo, fu riconosciuta come impressionista, fu accolta nella cerchia degli impressionisti dai suoi colleghi, espose anche lei al Salon Bouton e si sposò con un uomo, dopo aver avuto tutti gli amanti che voleva, si sposò con un uomo ricco, visse molto bene, diede appunto in Italia a Maurice Utrillo, che fu effettivamente la grande, il punto dolente della sua vita, perché Maurice era, lì probabilmente c'era un Edipo, un complesso di Edipo da parte di Maurice, che faceva sì che quando la madre smise di essere tutta per lui, cosa che Suzanne non fu mai, perché Suzanne fu tutta per sé, neanche per i mariti che ebbe, tutta per sé, visse bene e visse fino a 73 anni, il figlio cominciò a andare di matto, per cui beveva, si drogava all'epoca, girava l'audano, girava oppio, girava senzio, per cui fu sempre un ragazzino problematico. E la madre dovette lottare tutta la vita per tirare fuori il figlio dalla droga e far sì che dipingesse, perché era bravo il ragazzo quando non era drogato, quando non era ubriaco. Per cui l'unico modo che lei aveva per far sì che suo figlio non si rovinasse la salute era quello di prenderlo, chiuderlo da qualche parte con i pennelli e la tavolozza e far sì, ma chiuderlo letteralmente, rinchiuderlo per farlo dipingere. Allora lui dipingeva e dipingeva anche delle belle cose. Naturalmente, siccome il mondo patriarcale deve sempre accusare le donne, di che cosa può accusare Susanna la donna? Di aver sfruttato il figlio. Chiaro, no? Cioè, a nessuno è venuto in mente di dire ma che brava, poveretta, gli ha salvato la vita. No, l'ha sfruttato perché lei poi si è arricchita con i soldi dei suoi quadri, il che non è assolutamente vero, perché lei comunque aveva del suo Suzanne, perché aveva sposato un uomo ricco dal quale poi si separò, ma nel frattempo lei aveva comunque, si era creata la sua vita, per cui stette sempre bene. E dopo questo marito, che era un industriale, si sposò con un musicista, prima con un pittore e poi con un musicista molto più giovane di lei, insomma se la visse alla grande. Io credo che un po' le sia dispiaciuto non veder riconosciuto il suo lavoro a livello di prezzo, perché a livello di esposizione fu riconosciuta, cioè i suoi stessi colleghi stimarono il suo lavoro, ma il fatto di non riuscire a vendere, di vendere pochissimo o comunque a prezzi bassissimi, non so se le abbia davvero fatto piacere, perché non era una sciocca, quindi si rendeva conto che non era giusto. Camille invece fu proprio rinchiusa in manicomio. A un certo punto, dopo 10 anni circa che viveva da sola, qualcosa in meno, cosa faceva? Scolpiva queste enormi opere di donne e poi le fracassava a martellate, per cui la famiglia era imbarazzatissima da questo suo comportamento. Il fratello andò a prenderla, il fratello di cui lei si fidava, che lei amava teneramente, la prese e la portò in manicomio e pur continuando a prometterle ogni giorno che sarebbe andata a prenderla, non la rimase sepolta Camille per 30 anni in manicomio, praticamente fino alla sua morte, e non scolpì mai più nulla. Quindi metà della sua vita la passò in manicomio senza scolpire più nulla. Tutto quello che noi abbiamo lo fece entro i primi 30 anni, il primo periodo. Io vi faccio vedere, ecco, una cosa carina di Suzanne Maladon è che questo non era il suo nome anagrafico. Suzanne non si chiamava così, fu ribattezzata così da Degas in omaggio al quadro Susanna e i Vecchioni di Artemisia Gentileschi. Avete sentito nominare Artemisia Gentileschi? Ecco, la più famosa tra le pittrici donne non riconosciute, purtroppo la più famosa perché ebbe un processo per stupro, altrimenti sarebbe passata nel dimenticatoio anche lei. Susanna e i Vecchioni è uno dei quadri più polemici che dipinse Artemisia Gentileschi, dipinse questo episodio biblico, questa Susanna che era una ragazzina, e i vecchi, questi vecchioni, cioè questi uomini anziani che praticamente le facevano stalking, la importunarono, ma la ricattarono, cioè le dissero se tu non stai con noi, noi andiamo a dire a tuo marito che tu sei stata con noi, quindi verrai lapidata. Questo è un fatto, credo, riportato nella Bibbia. E lei rispose, io preferisco essere lapidata da innocente piuttosto che. E infatti fu lapidata, comunque, credo, non ricordo esattamente. E Artemisia dipinse questo quadro in cui si vede proprio Susanna nuda, perché con aria schifata si volta dall'altra parte e allontana questi uomini anziani con la pappagorgia, col naso pendulo, no? Che la guardano con questa lasciglia. In onore, evidentemente Susanna la donna doveva essere un bel tipetto, se uno come Degas, che era tutto in punto di forchetta perché dipinse solo ballerine, quindi aveva i suoi bei problemi anche lui col discorso della purezza femminile, la ribattezzò Susanna, evidentemente perfino uno tutto pulitino come Degas aveva colto la grande forza rivoluzionaria della vita di Susanna e l'aveva onorata ribattezzandola appunto Susanna. Bella. Vi faccio vedere qualcosina velocemente, se volete avvicinarvi lo descrivo poi anche ad alta voce. Allora, Camille Claudel Sakuntala è l'opera più famosa. Qui è mentre lei la scolpisce, praticamente è a grandezza naturale e già quello, vuoi spostarti un po' di qua? A grandezza naturale, e la cosa fu considerata assolutamente rivoluzionaria perché si riteneva che, a proposito di forza fisica di cui parla Mary Wollstonecraft, le donne non avessero la forza di scolpire grandi opere. Ti aspettiamo, dai. Volete intanto fare pipì? Dai. Sakuntala sta ancora registrando, speriamo, aspetta. Non so da dove venga fuori questo nome, ma vedete che lei praticamente è su uno sgabello con questa enorme figura di donna riversa, che è grande come lei, e si riteneva all'epoca che le donne fisicamente non fossero in grado di scolpire cose così grosse, che non avessero abbastanza forza, quindi è un'altra... è un altro luogo comune che lei ha sfatato. Questa è Sakuntala, questa bellissima figura di donna che abbraccia un uomo, ma l'uomo è inginocchiato ai suoi piedi e lei si tiene un seno in mano, è una veramente una figura amorosissima e anche dolente, cioè sembra quasi che si stiano dicendo addio, non so, non conosco la storia di Sakuntala, credo che sia un mito che lei ha preso. Questa è lei, vado un po' velocemente perché è bellissima. Lei è veramente molto bella, anche Susanna è molto bella, tutte e due, guapissime. Questa è lei, guardate come era sfasciata, qui è lei quando rompeva martellate le sue opere, quindi guardate rispetto a quanto era bella quando aveva 17-18 anni, qui la vediamo grassa, la vediamo sfatta. Dicono tra l'altro che vivesse nello sport, che non pulisse, chiaramente non aveva i soldi per una domestica, per cui lei, per cui sicuramente la disperazione, la rabbia l'hanno consumata, anche se ha comunque sopravvissuto a 30 anni in manicomio, io non so come abbia fatto, evidentemente, ecco. Beh, questa è la cosa sua che io amo di più, che sì. È non mi ricordo il titolo. Cioè, dovrebbe essere la Vals, forse. La Vals, bravo. No, la Vals, no, sono due che ballano. Ok, la vecchiaia, sì, l'anzianità. Forse, della ragazzina. La vecchiaia, qualcosa del genere. L'anziana, sì. E qui si vedono praticamente un uomo che viene portato via da una donna anziana e la ragazzina inginocchiata che cerca di trattenerlo. Praticamente la ragazzina è lei, lui è Rodin. E la donna anziana è la compagna di Rodin, che era molto più vecchia di lei, ma anche più vecchia di lui, e che non lo ostacolò in tutti i modi, chiaramente, no? Lei, anche se non erano sposati, quindi lui avrebbe potuto sposarla, però non lo fece mai. E in questa ragazzina, nel dettaglio, io questa l'ho vista, sono andata a Parigi nella sala dove è esposta. Se ne andranno, hanno bisogno di qualcuno che gli vada a far manovra fuori. Veramente guardare questa roba mi ha piegato le ginocchia, perché è a grandezza naturale, quindi questa figura di lei inginocchiata con le mani in avanti, no? In questo atto di implorare, lei secondo me qui rappresenta tutte le donne che implorano, ed è a grandezza naturale, quindi tu te la trovi di fronte con le mani così, cioè io ero proprio, sono caduta sulle ginocchia, mi è venuta una commozione vedersela lì, ti sembra proprio che sia lei che implora quest'uomo, no? Di non lasciarla, di non abbandonarla. E fu lei, tra l'altro, a lasciarlo, e pare che ne uscisse fuori devastata, molto più di lui. E comunque gli uomini trovano sempre il modo di consolarsi. Ecco, e questa è la famosissima, meravigliosa donna anziana di anche di questa, non mi ricordo se si intitola Medusa, forse o qualcosa del genere. Questa donna anziana, che si vedono le costole, si vede la pancia floscia, cioè nei minimi dettagli, però fatta con amore, secondo me. Cioè io qui ci vedo tanta tenerezza. Sì. Vado avanti, quelle piccole non le... Ecco, qui vabbè, sono quattro donne che chiacchierano. Vado avanti veloce. Questa è ancora lei, questa l'ho fatta io. Questo è un dettaglio della vals, perché non ci sono tante cose su, ecco, questa è ancora la figura della donna anziana. Vedete, ma addirittura il dettaglio dei capezzoli rientrati, no? Che sono tipici delle donne. Una cosa che succede è che i capezzoli rientrano, non so se vi siete guardati i capezzoli di recente, però succede, no? Che vanno come dentro, come un... introspettivi anche, tutto torna dentro, nella pancia. Ecco, guardate i dettagli delle costole, questa parte qui che io adesso guardo il mio corpo e la vedo proprio questa fascia che prima non c'era, no? Questo cadere, andare tutto verso il basso come richiamato dalla madre terra, come l'aveva percepito bene lei, con quanto amore scolpisce il corpo di questa donna anziana. Sinceramente quella che io per questo era un dettaglio ancora di Sakuntala, questa è tremendo, questa è proprio lei che si chiude in se stessa, questa figura di lei che si abbraccia la testa, che è piegata, ripiegata su se stessa, come dire non voglio più saperne del mondo. Questo è il retro della donna anziana, guardate anche qui le natiche, i buchi nelle natiche, la pelle cadente della schiena, le cosce, cioè io la trovo, e non è tanto grande, questa anche lì dove, questa sala che c'è a Parigi, è grande così, non è tanto grande questa qua, ma è di una potenza, credo sia fatta in gesso perché è tutta bianca, questi ancora sono dettagli, c'è una bimba, va bene, questa è la valse, francamente non mi dice molto, quello che mi dice, questo è un altro... un'altra persona anziana, un'altra donna anziana, un volto anche qui con le rughe, sembra perfino di vedere il naso rosso, anche se è tutto bronzo, sembra di vedere proprio i pomelli, i colori dell'anziana, no? Le gote un po' arrossate, magari dal bere. E qui credo, sì, finito. Passiamo a Suzanne Valadori, ci ha fatto un po' d'idea. Sì. Cristina, bravissima. Questa è lei dipinta da Toulouse-Lautrec. Questa è lei, no, questa sì, Toulouse, questa è lei dipinta da Renoir, altro stile, decisamente, giusto per darvi la prova che fu la modella dei più grandi pittori dell'epoca e amante anche perché non si fece mica tanti problemi. Questa è lei dipinta da Degas. E passiamo a vedere i suoi invece. Ecco, qui lei dipinge se stessa come si vedeva. E vedete che non si fa sconti, eh? Non si fa sconti, cioè nonostante fosse bella, lei dipinge i suoi difetti, non dipinge i suoi pregi. È di un coraggio questa cosa, come dire, vedetemi per quello che sono, non per quello che sembro. A me mi fa caponare la pelle questa cosa, perché... Vediamo se ho una foto di lei com'era in realtà, così vedete che bella, ecco, guardate che bella che era, cioè che visino perfetto rispetto a, e non perché non fosse capace di dipingere, ma lei si era come se volesse dipingere la sua forza più che la sua bellezza, quindi il naso, la mandibola. Qui aveva poi però questi occhi color pervinca, questa è lei già anziana, che dipinge, lì è con il figlio e il suo ultimo marito, credo. E qui ancora lei che si sta dipingendo, questo qui Baffi è suo figlio. Quindi questa era lei, vedete che è una bella donna. Ecco, qui eppure lei dipinge se stessa così, guardate. Di una, di una potenza, di una forza, di una, così, a me dà proprio l'idea di essere proprio radicata, no? Radicata nel colore, radicata nell'autocoscienza. Era molto cosciente di sé questa donna, molto consapevole del suo valore. A me dà l'idea di, proprio di, una, di un potere, di una donna che non si sarebbe fermata ma neanche davanti a Napoleone in persona. E si vede da, da come lei dipinge se stessa, senza mentire, anzi senza infiorarsi. Qui probabilmente doveva aver bevuto perché un attimino bellina si è fatta. Questo è il quadro in cui si è dipinta più bella. Qui è già anziana, vedete, sembra addirittura di vedere che i capelli sono colorati, si vedono ispidi, no? Le ciocche ispide. Sì, questo è in assoluto il suo quadro più coraggioso, perché qui lei aveva l'età delle fotografie, no? Quindi aveva 60 anni, sono nati. Vedete, cioè si vede che è una donna anziana. Sì, e non si è dipinta per farci vedere quanto era bella, si è dipinta per coscienza di sé, come dire questa sono io. E questi lavori, adesso questa è un'informazione che sta arrivando adesso, questi lavori secondo me sono proprio atti sciamanici, cioè sono cerimonie sciamaniche, sono cose fatte con la coscienza sciamanica dell'affermazione del proprio essere. Infatti lei è morta tardi ed è morta bene, è sempre stata ricca. Al contrario invece, Camille non ebbe coscienza di sé, cioè interpretò per tutta la vita il ruolo di vittima e morì da vittima, visse da vittima il fatto stesso di distruggere i suoi lavori. Cioè sentite la differenza tra Camille, che scolpiva e distruggeva martellate, cioè una roba allucinante, questa invece si dipinge fino a 60 anni tranquilla, non gliene può fregare di meno di quello che dicono gli altri. Eppure stessa epoca, perché sono nati credo un anno di distanza l'una dall'altra. Questa però di umili origini, quindi non aveva il bagaglio del... Quindi Camille Claudel era del 64, Suzanne Baladon del 1865, nato proprio a un anno di distanza, però un abisso tra le due. Due modi di esprimere l'arte femminile, è bene conoscerli tutti e due, anche perché sicuramente Suzanne ha fatto molta meno fatica di Camille ad arrivare all'arte, perché Suzanne non doveva rendere conto, viveva sulla strada. Per cui lei a un certo punto ha deciso, ha preso i pennelli, punto. Invece Camille doveva rendere conto alla famiglia, che alle volte è un bagaglio ben ingombrante a cui rendere conto. Non aveva avuto le basi Camille di indipendenza, di forza, di autocoscienza, che invece aveva avuto Suzanne, che manco si sapeva chi fosse suo padre. Quindi immaginatevi, figlia di una lavandaia di padre ignoto, a che cosa è arrivata a fare. È molto simile a Mary Wollstonecraft come tipo di energia. Mary Wollstonecraft nella scrittura ha fatto la stessa cosa. Famiglia bassissima, cioè il padre non so se era un agricoltore o cosa, fallito, ubriacone, picchiava la mamma, eccetera, eccetera. Quindi famiglia quasi indigente, lei scappò di casa, all'ennesima volta in cui vide il padre che picchiava la madre che non reagiva, prende, scappa, ma si mette a studiare da sola. Impara le lingue, viaggia, scrive ed è a tal punto autodidatta che diventa giornalista, redattrice per come si chiama? Chronicle Review, quella rivista, voi che avete letto Mary Wollstonecraft? Vabbè, non mi ricordo. Comunque cioè, diventa redattrice professionista, traduce le opere di Leibniz, dei filosofi, dal tedesco, una ragazza che si è fatta da sola. Viaggia, prende, gira da sola, ha amanti, ha una storia con Füssli, il pittore Füssli, di cui naturalmente la moglie di Füssli non era molto contenta, però cosa succede? Eh? Sì. Sì, no, in realtà lei sapeva di chi era il padre. Sì, però non da sola. Sì, e non sai perché non volle praticamente far riconoscere la figlia Mary Shelley, mm-hmm. Era figlia dell'amante che lei aveva, che era un industriale, era un uomo ricco, che però non la sposò. Lei non voleva, in realtà non credeva nel matrimonio, ma lei voleva vivere con lui, voleva stare con lui, se non che Mary venne a sapere finalmente che anche lui la tradiva con un'attricetta. Lo venne a sapere da non so se... Sì, l'ho visto questo. Ecco, venne a sapere che lui la tradiva, quindi in lei prevalse l'orgoglio, la fierezza, quindi non accettò nemmeno che lui mettesse il nome. Non accettò soldi, non, cioè lei disse da questo momento in poi sei fuori dalla mia vita perché non mi meriti, quindi io provvedo a mia figlia, io le do il mio nome, veramente cappello, ma davvero abbiamo bisogno noi di ricollegarci con questo tipo di energia, con questa fierezza. Dunque, qui passiamo velocemente alcuni dipinti di Suzanne Baladon, quasi tutti nudi, donne nude, qualche uomo nudo, donne che si lavano, e questo uso incredibile del colore che era molto impressionista, ma questa non è nuda, questa neanche. Donne, insomma, anche donne del popolo, donne discinte, questo era il figlio. Cominciano i nudi, questa è la matrilina, perché questo era il figlio e questa è la madre, la vecchia madre, la bandaglia, dietro non so se era il marito. Ecco, questo Adamo ed Eva è interessante perché è vero che sono tutti e due nudi, però lei è completamente nuda ed è bellissima. Lui c'ha quella foglietta di fico davanti al pisello che è veramente ridicola, cioè io credo che ci fosse un intento ironico, cioè... Perché guardate che roba, come si fa a prendere sul serio questa no, come dire, guarda, ti copro perché non c'è niente di bello lì sotto, no? Io la leggo chiaramente l'intento ironico. Cioè, non, veramente, dopo aver fatto un corpo così splendido di donna, non può aver fatto dell'edera così scema davanti al pisello dell'uomo perché non era capace, poteva sicuramente fare di meglio se voleva, no? Quindi è stato proprio, secondo me, proprio una dichiarazione di intento ironico. Ecco, qui un'altra donna bella in carne, a cui lei non fa sconti. Moltissime donne, e la mamma, credo che sia questa mamma, con il figlio dietro, eh? Mi ha detto di quella sua mamma. questa è molto bella. Questa è considerata una delle sue opere migliori, con la cartomante inginocchiata ai piedi di questo enorme corpo di donna nudo che vede il futuro. Violinista, ecco. Queste sono opere di una donna che non è nemmeno andata a scuola di pittura, ma non ha neanche avuto l'insegnante privato a casa, come aveva avuto Mary Cassatt, per esempio. Vi ricordate, Mary Cassatt le avevano preso l'insegnante a casa perché avevano visto che era dotata, o come Berthe Morisot, che riuscì ad andare un pochino a scuola, o anche Camille, lei Suzanne proprio ha fatto da sola, quindi sicuramente le mancano le basi, però ha fatto veramente delle cose pregevoli, notevoli, se consideriamo da dove è uscita da sola. Ecco, io ci tenevo a recuperare queste due figure perché l'altra volta c'è passato il tempo e non abbiamo fatto il tempo a trattarle, ma sono veramente interessanti e non vorrei che il nostro incontrarci si parlasse solamente di letteratura, perché ci sono molti modi per far sentire la propria voce, sicuramente la pittura è quello, soprattutto queste donne che hanno incarnato in maniera così appassionata la loro arte. Cioè, queste non sono state donne che si hanno dipinto e basta, loro hanno vissuto la loro pittura, hanno proprio dipinto se stesse quasi. Ma tra l'altro, secondo me, Suzanne stilisticamente è anche, si chiama, dell'espressionismo, in realtà, un grande anticipo sui tempi, perché ci sono tratti di alcuni corpi che lei dipinge che ricordano quasi Schiller. Sì. E il fatto di mettere proprio la... E Van Gogh. Anche Van Gogh, però diciamo che Van Gogh aveva ancora una certa, come si può dire, una certa tendenza ancora verso lo stile, mentre poi uno come Schiller, per esempio, lo disintegra a un certo punto, pur essendoci un'attenzione all'equilibrio, all'eleganza nelle sue opere, lui è uno che riesce a rendere proprio il senso della pesantezza del macabro, sì. Anche un po' posta, proprio penso con la corrente tedesca, e nei anche lui. Sì. modo, anche se già più vicina al cubismo, forse già più vicina a linee più dritte, è Natalia Gonciarova. Se volete andarvi a vedere sul canale c'è un piccolo video anche su Natalia Gonciarova, perché anche lei dipinse donne, non nude, però dipinse le contadine piuttosto che, e anche lei aveva questo stile impreciso, no? Questi tocchi molto duri, molto crudi. Perché in realtà gli impressionisti avevano un grandissimo senso dell'estetica, per quanto potessero comunque dipingere con un nuovo stile molto più impreciso, molto più sporco, eccetera, in realtà loro tendevano al bello. Invece lei non tende a quello, tende proprio all'espressione dell'interiorità, mi viene quasi da pensare che qualcuno che è arrivato dopo nella corrente espressionista si sia proprio ispirato anche a lei e ai suoi lavori. È probabile. C'è da dire che lei comunque fu molto apprezzata dai suoi colleghi, questo è bene, nel senso che non visse quello che vissero moltissime altre artiste che venivano prese in giro dai colleghi. Lei fu portata in palmo di mano, Susanna, e sicuramente si sono ispirati. Pensa a suo figlio comunque, che avrebbe potuto ereditare, no? Prendere dalla madre questo. In realtà Oprio dipingeva cosa? Viste di Parigi. Ed era strapagato per queste viste di Parigi, che alla fine poi lui faceva quasi in modo meccanico, perché per i turisti americani, certo, che arrivavano a Parigi e li pagavano delle follie, ma niente di che, non c'era, erano delle cartoline praticamente. Con una madre così, alla fine quello famoso era il figlio, quello pagato era il figlio, che dipingeva delle cartoline abbastanza senza senso. E veniamo a noi, Virginia Woolf, finalmente all'alba delle 5. Ce la fate? Ok. Virginia Woolf nasce circa 20 anni dopo le due pittrici, 60 anni circa dopo George Sand, quindi 1882, l'ultimo ventennio del 1800, e come sappiamo muore a 59 anni. Relativamente giovane, suicida. Io avevo sottolineato alcuni brani di Mary Wollstonecraft che mi facevano pensare a Virginia. Però magari le leggiamo dopo se rimane tempo, perché di Mary comunque abbiamo parlato già. Mary Wollstonecraft del 1792, quindi significa 100 anni prima di Virginia Woolf, quindi da qui veramente si capisce quanto era avanti. Mentre studiavo il parallelo tra Virginia Woolf e Mary Wollstonecraft, mi sono resa conto che prima ancora c'è stata un'altra grande donna che ha parlato di educazione, di educazione alle ragazze, che è stata Christine de Pizan. Conoscete? Avete sentito parlare? Se volete trovate sul canale La Città delle Dame, che è stato il suo... Christine de Pizan è stata nel 1400, è stata la prima giornalista professionista, è stata una donna che ha fatto di necessità virtù, perché le morì il marito, lei aveva tre figli e la mamma anziana da mantenere. Per fortuna suo padre le aveva insegnato a scrivere e a leggere, quindi lei usò questo suo sapere e in poco tempo riuscì, adesso non sorvoliamo sul come perché altrimenti andiamo davvero tanto fuori tema, una donna veramente molto brava, molto energica, molto motivata, mise su un atelier di scrittura. Quindi nel 1400 lei divenne quella che una redattrice, una giornalista professionista, nel senso che riceveva le commesse da parte della famiglia, delle famiglie reali, degli Orleans piuttosto che di altri, di scrivere le storie delle loro vite, delle vite delle casate reali, dei principi, e lei le scriveva a pagamento e in questo modo mantenne la sua famiglia. Scriveva di qualunque argomento, dalla caccia, all'agricoltura, all'araldica, alla guerra, fu la prima a dire, scrisse della pubblica amministrazione, del fisco, scriveva trattati, qualunque argomento le chiedessero di sviluppare, lei lo sviluppava, fu la prima per esempio a suggerire che nelle cariche statali bisognasse andare per meritocrazia e non per conoscenze, questa idea geniale che a me pare tanto scontata, però c'è, l'ebbe lei, una donna ebbe questa idea, no? Perché disse: non andrà mai bene la pubblica amministrazione se invece di mettere dentro persone competenti metteremo dentro i figli dei figli dei figli. No? Però non l'hanno ascoltata molto. No, per niente, per niente. Pensa che quando lei rimase vedova, scoprì che il marito lavorava per la corte, lavorava per il re di Francia. Lei lasciò l'Italia, nacque a Venezia, costruì a Bologna per un periodo con la famiglia, con il papà, e poi andò a Parigi, dove il padre era stato chiamato, si stava creando la biblioteca del Louvre, il padre era stato chiamato a lavorare per il re, il padre era docente universitario, lì conobbe suo marito, si sposò, ma nel giro di poco tempo perse il papà e perse il marito, quindi rimase da sola con la famiglia e si accorse, chiaramente senza soldi, perché quello era il problema, quando moriva il capo famiglia dovevano arrangiarsi, quindi donne che non potevano arrangiarsi andando a lavare i panni o andando a fare lavori di bassa manovalanza, era un bel problema, come fare. E lei si accorse che il marito praticamente avanzava dei soldi dal re e andò a chiederli, andò al tribunale per rivendicare quello che era suo diritto sacrosanto e fu presa in giro, perché nessuna donna doveva permettersi di andare in un tribunale di uomini a rivendicare i suoi diritti di uomini, specialmente nei confronti della corte, nei confronti del re. Però lei non si fece spaventare, dopo 14 anni di processi, finalmente le diedero ragione e riuscì ad avere i suoi soldi. Chiaramente nel frattempo aveva dovuto inventarsi qualcos'altro. E quindi lei creò la prima casa editrice, creò un atelier di scrittura, praticamente, dove inizialmente era lei che scriveva a mano i suoi libri, perché nel 1400 si scrivevano a mano, una figura meravigliosa questa di Christine de Pizan, il francesismo di Cristina da Pizzano, Pizzano credo fosse un paesino vicino a Venezia. Dopo un po', visto che lei si faceva pagare per questi libri, quindi scriveva per la regina, per le casate reali, faceva il progetto anche del libro, la copertina, come dovevano essere decorati questi libri che ancora venivano lineati a mano, come doveva essere fatta la copertina, le pietre che dovevano essere incastonate, le decorazioni, lei faceva il progetto, lo sottoponeva, se piaceva si faceva dare i soldi, dopodiché cominciava a preparare il libro e poi, siccome le chiedevano copie del libro che lei non poteva fare, mettersi lì a scrivere, cosa fece? Creò un atelier, prese delle donne a scrivere, delle donne a miniare, delle donne, cioè mise su una casa editrice. Avete mai sentito parlare voi di questi debitanti? Mai, eppure la prima giornalista professionista, perché lei riconobbe se stessa come scrittrice professionale, lo faceva per denaro, non per hobby. Quindi, a quantomeno per rispetto al fatto che questa donna è illuminata in atti d'Italia, un qualcosina a scuola potrebbero raccontarci. Bene, ne parlano nelle scuole francesi, Cristina Pisani. Nelle scuole italiane, figurarsi, non esiste proprio. Io l'ho scoperto per puro caso ascoltando una conferenza tra l'altro di Alessandro Barbero su YouTube che ne parlava. E poi sono andata a fare le mie ricerche, ho comprato il libro e ho letto, questa è la città delle dame, che è stata anche inserita poi nel mio libro Antenate, perché secondo lei è stata una grandissima maestra. Lei ha costruito una città per le donne, dove ha ospitato tutte le donne, dalla Bibbia in poi, dalla storia romana, dalla storia mesopotamica, tutte le donne dentro in questa città per tenerle al sicuro dal patriarcato, del patriarcato. Bene, in questo libro, La città delle dame, lei che cosa fa? Fa due cose. Primo, si scaglia contro i romanzi che in quell'epoca vengono scritti che parlano male delle donne, tipo Roman de la Rose, Boccaccio, Jean de Meaux, tutti i libri che ci vengono fatti studiare noi oggi. Roman de la Rose l'abbiamo studiato a scuola, Boccaccio e De Camerone l'abbiamo studiato, che sono di una misoginia spaventosa e ce li fanno leggere. E lei dice: perché è possibile che tutti questi uomini parlino male delle donne? Che strumenti, che elementi avete per parlare male delle donne? Questo mi è venuto in mente perché leggendo Mary Wollstonecraft, che si scaglia contro Rousseau, Mary Wollstonecraft scrive nel suo Sui diritti delle donne tutta una requisitoria contro Rousseau, perché Rousseau dice che le donne sono naturalmente portate per i vestiti, per la conversazione, per le cartinate, insomma, no? Mentre lei dice le donne sono naturalmente portate per quelle cose lì perché non imparano altro da bambine. Da bambine vengono educate praticamente ad assistere alle toilette delle loro madri, quindi per forza poi questo è quello che imparano, non che ce l'abbiano innato, perché dice Mary Wollstonecraft contrastando Rousseau, se alle bambine venisse permesso di andare a scuola con i bambini, di fare la stessa ginnastica e di imparare dagli stessi libri, avrebbero altri interessi. Quindi in parallelo quasi le stesse parole, incredibili, a distanza di 400 anni, nella bocca di Christine Pisanio, me ne sono accorta qualche giorno fa studiando, dico, cavolo, ma io leggevo Mary Wollstonecraft che se la pigliava con Rousseau, dico, ma dov'è che io ho già sentito queste cose? Cavolo, Christine Pisanio, sono andata a riprendere il lavoro, La città delle dame, dove lei si scaglia contro Boccaccio, contro Gianni Noemi, e dice, a che titolo questi signori ci disprezzano e parlano male delle donne quando sanno benissimo che noi non abbiamo scelta, perché non ci fanno andare a scuola, perché non ci danno nessun altro tipo di istruzione se non pensare alla nostra bellezza, alla nostra esteriorità. E allora mi sono resa conto di una cosa fondamentale, che è il messaggio che vorrei passare oggi, che periodicamente si reincarna nella storia femminile, nell'energia femminile, si reincarna questo tipo di messaggio, cioè che alle donne non viene data un'adeguata istruzione. E ragazzi, siamo ancora lì, se no non saremmo qui oggi a parlarne. Siamo ancora lì, cioè non è cambiato niente, ancora oggi noi siamo qui perché alle donne non viene dato un adeguato tipo di istruzione. Tutto il nostro lavoro è dovuto a questo. Allora, nel 1400 Christine Pisan, nel 1800 Mary Wollstonecraft, nel 1900 Virginia Woolf dice la stessa cosa. Marie Curie aveva parlato di educazione, diceva che bisogna far studiare. Lei stessa, i figli di Marie Curie e le due figlie, Marie Curie aveva avuto due figlie femmine, lei le fece studiare matematica, chimica, cioè fu lei stessa l'insegnante delle sue figlie e fece loro imparare le scienze, non soltanto la letteratura, il ricamo, fu lei stessa maestra delle sue figlie. E tante donne che hanno parlato, Gabriela Mistral, premio Nobel per la letteratura cilena, tutta la sua vita è stata basata sul riformulare l'educazione, ma specialmente nei confronti delle ragazze, delle bambine che dovevano essere ammesse agli studi. Fatto fu anche, fu insegnante, fu preside Gabriela Mistral in Cile, ovviamente derido da tutti, fino a che non fu chiamata in Messico dall'allora ministro di Milano, dal presidente del Messico, che la chiamò e lei andò in Messico a riformare, a riformulare l'educazione, e poi divenne ambasciatrice e girò tutta l'Europa, ragazza Gabriela Mistral, figlia del popolo, nata da madre, addirittura lei diceva io tengo il rostro di nativa, cioè era proprio una, non apparteneva alla casta bianca cilena, agli eredi dei colonialisti, Gabriela Mistral era figlia, erede dei nativi, quindi immaginate che coraggio questa donna che poi divenne ambasciatrice e che vinse il Nobel per la letteratura, fu maestra di Pablo Neruda, ne abbiamo già parlato, però Pablo Neruda lo conosciamo tutti, Gabriela Mistral non lo conosce nessuno. Allora, io vi leggo alcune parole di Christine Pisan, che sono quasi le stesse parole usate da Mary. Purtroppo ho scritto sbagliato il numero di pagine, adesso non voglio cercare, non voglio perdere tempo a cercare. Allora, Christine Pisan dice agli uomini, dovete istruire le vostre donne su quelli che sono i vostri affari, perché se le vostre donne rimangono vedove non sanno come fare per mantenere la famiglia. Questo lo dice, lo scrive Christine Pisan nel 1400. Stesse parole scrive Mary Wollstonecraft nel 1700 e rotti, quando scrive sui diritti delle donne, quindi hanno toccato più o meno gli stessi temi. La vedovanza, cosa succede in una donna che rimane senza marito, senza protettore, che cosa succede alle bambine che non vengono istruite, e Virginia Woolf riprende lo stesso discorso, perché Virginia Woolf batte tantissimo sul discorso dell'educazione alle ragazze. In Tre Ghinee parla praticamente di come vengono gestiti i collegi femminili rispetto a quelli maschili, di quanto, quanto poco si investe nell'istruzione delle ragazze rispetto all'istruzione dei ragazzi. Quindi periodicamente torna sempre fuori lo stesso discorso. E noi nel 2020 siamo ancora qui, perché comunque abbiamo sì il diritto di andare a scuola, ma per imparare che cosa? Cioè, io sono con Virginia Woolf, quando si chiede ci sarà servito il diritto a votare? Votare chi? A votare maschi? O a votare donne che si comportano come maschi? Comunque, perché nessuna delle donne che in questo momento è al governo per me è una donna, realmente, non fa gli interessi della gente. Quindi vuol dire che è dentro nella mentalità patriarcale, fa gli interessi dell'oligarchia. Questa mentalità non è la mentalità delle donne. Le donne lavorano per il popolo, per la gente. Non sto facendo un discorso di sinistra, sto facendo un discorso di famiglia. No? La donna è madre e vuol dar da mangiare a tutti i suoi figli. Io non vedo nessuna politica donna in questo momento che abbia questo tipo di ottica. Anche se in realtà non volendo fare un discorso destra-sinistra, credo fisiologico e naturale, che a un certo punto determinate donne vanno a incasellarsi da una parte o dall'altra. Mi vengono in mente le due candidate al Parlamento europeo in questo momento, che sono di destrissima e sono assolutamente lontane da quelli che sono i bisogni delle donne, del popolo, eccetera. Non per nulla una candidata proprio per la BCE. Quindi si vede proprio la mascolinizzazione del ruolo della donna all'interno di determinate. Però io non parlerei, sai, di sinistra e di destra. Per esempio Rosa Luxemburg, se non era di sinistra lei, eppure lei si tolse dal movimento di sinistra quando si rese conto che era strumentalizzato. Io proprio parlerei di visione femminile e visione patriarcale. Sì, sì, infatti non mettevo in sinistra. Era proprio per quello che dico, che comunque anche oggi storicamente andiamo a vedere che determinate donne che fanno determinati movimenti si vanno comunque a collocare naturalmente o da una parte o dall'altra, tendenzialmente le donne che non fanno. Cioè, per entrare in politica devi appartenere a un partito, esatto. E questo è l'errore enorme, che in politica non puoi entrare da semplice cittadino. E questa è la cosa assurda, perché cioè, la politica è un'altra cosa rispetto, però purtroppo è sempre stato così. Sì, sì, sì, ma vedo proprio la continuità di questo discorso, cioè tu non volendo fare il discorso del centro-sinistra, li vai proprio a collocare. E una volta che sei dentro, poi sei dentro nel giochino. Ecco, c'è un altro parallelo interessante tra Mary Wollstonecraft. Riuscite a seguire questi? Perché io le ho studiate, le conosco benissimo. Non so però se riuscite a seguire questi saltellare di qua e di là. Mi sento molto Virginia Woolf nel saltellare di qua e di là. Abbiamo trovato un nuovo modo di far scuola, evidentemente. Cioè non parlare un autore per volta con le date, eccetera, eccetera, ma mischiare, no? Come se stessimo raccontando una storia e mettendoci dentro anche il nostro vissuto, mi sembra tanto tanto più bello così, no? Più interessante. Allora, Virginia Woolf praticamente e sua sorella Vanessa crearono una vera e propria comunità. Cosa successe? Che quando morì il padre, che il padre era veramente un patriarca molto autoritario, bla bla bla, quando morì, e Virginia dice sempre tra virgolette meno male che morì presto, perché altrimenti avrei dovuto fargli da badante per tutta la vita, le due sorelle e i due fratelli se ne andarono a vivere insieme, lasciarono la grande casa che avevano di famiglia e se ne andarono a vivere a Bloomsbury, questo quartiere che ai tempi era un quartiere povero di Londra, presero una casa tutti insieme e si misero a vivere insieme, ma fu ben oltre semplicemente il condividere un appartamento. Intanto perché ospitavano gli amici che erano tutti quanti intellettuali dissidenti che si ponevano contro il sistema vittoriano, contro la visione vittoriana di allora. E con questi amici c'era una relazione, per me era proprio una comunità, assolutamente, perché mangiavano insieme, discutevano insieme, probabilmente dormivano anche insieme sul tappeto, cioè io me li immagino tutti insieme vicino al camino che si addormentavano quando era, perché tanto erano tra di loro, erano tutti ragazzi, erano vicini all'università, erano vicini alla biblioteca, quindi stavano tutti insieme e fu questa vita comunitaria, esatto, questo us che nutrì Virginia e Vanessa, che fece di Vanessa era una pittrice, Vanessa Bell, la sorella di Virginia Woolf, che dipingeva in modo molto simile a quello di Suzanne Paladon. Se sei interessata alle arti figurative, vatti a guardare i quadri di Vanessa Bell, di cui tra l'altro Virginia scrisse la presentazione. Loro furono moltissimo, più dall'educazione che avevano ricevuto, perché anche loro ebbero il precettore privato a casa, come tutte le ragazze di buona famiglia, ma se riuscirono a tirare fuori, in particolare Virginia, riuscì a tirare fuori quello che poi ha tirato fuori, non è stato certamente grazie al fatto di aver avuto un precettore, ma è stato grazie a questo lavorio, no, continuo, per cui lei addirittura scrive in alcuni passi del suo diario che c'erano dei momenti in cui, quando erano tutti insieme e discutevano, lei andava in estasi. Quindi era proprio un po' quello che stiamo facendo noi adesso, no? Risvegliare le memorie attraverso il parlare in cerchio, attraverso il discutere in maniera così feconda, così nutriente, che lei è diventata quello che è diventata, che si è liberata da tutte le pastoie, da tutte le infrastrutture, perché ha potuto vivere e fare questo esperimento di vita in comunità. E questo modo di vivere, che tra l'altro, ecco, se vogliamo parlare di questo poi, bisogna che spenga, ma che non voglio che questo sia registrato. Ok. C'è un parallelo profondo, vuoi dirci già? No, che sono scomoda. Vieni qua, no, ma in ogni caso la sedia è scomoda. Vieni qua, c'è il cuscino. Non per il cuscino, per la seduta. Vieni qua, prego. Prego. Devi dirmelo prima. No, ma sono scomoda. Se un po' diventa scomoda. Sì, è la posizione statica, per un po' io sono mai seduta, per cui se hai bisogno di alzarti, di stare seduta. Casomai ogni tanto mi alzo, perché io non sto mai seduta dopo un po' di tempo. No, ma se davvero, se anche vuoi muovere. Grazie. Un'altra che ha fatto più o meno la stessa cosa fu Mary Wollstonecraft, a proposito di paralleli, perché Mary Wollstonecraft, grazie a sapere che lei si fece da sola, grazie a tutto quello che imparò, alle lingue che imparò, alla traduzione dei filosofi tedeschi che lei fece, entrò a lavorare per una rivista che era l'Analytical Review, e questa Analytical Review era un circolo di intellettuali che si trovavano dall'editore e parlavano e discutevano, quindi anche Mary Wollstonecraft riuscì ad avere questa formazione. Ovviamente anche lei aveva lasciato la famiglia, non doveva rendere conto alla famiglia, quindi alla base di tutte queste donne molto indipendenti c'è sempre il fatto che hanno potuto liberarsi per un motivo o per l'altro dalla famiglia di origine, quindi farsi la loro vita senza dover rendere conto a nessuno. Virginia Woolf, perché era morto il padre, se no col cavolo che avrebbe fatto tutto. Abbiamo visto cosa è successo a Charlotte Bronte, che dovete rinunciare a sposarsi perché il padre non glielo permise. Quindi Virginia poté perché il padre era morto, quell'altra poté perché se n'era scappata giovanissima di casa e si era fatta per conto suo. Quindi c'è questo parallelo di queste comunità di artisti, di intellettuali, di filosofi che aiutano le donne a farsi una cultura e a formarsi fuori dai canoni. Quindi le aiutano a poter vivere veramente come donne libere e indipendenti e coraggiose. Grazie a questo, bene o male, questo gruppo di intellettuali che facevano capo all'Analytical Review dell'editore di Mary Wollstonecraft fece, le creò una famiglia di cuore, una famiglia di testa, che fu bene o male il corrispondente di Bloomsbury per Virginia Woolf. Riuscite a cogliere questa cosa? Se queste donne avessero dovuto occuparsi di una famiglia, dei figli, del marito, mai o mai avrebbero potuto fare quello che hanno fatto. Allora, io, dunque, la storia di Virginia Woolf, inutile che ve la racconti, immagino che tutte quante abbiate perlomeno letto la sua vita, o no? Io? Vabbè, ve la dico in due parole, perché quella poi ve la potete dare, certo, a leggere. Sì, sì. Cioè, dopo che morì il padre, era figlia dell'alta borghesia, dopo che morì il padre andò a vivere con i fratelli e la sorella, visse una vita molto libera e indipendente, però solo dal punto di vista intellettuale, perché in realtà visse sempre a Londra comunque, e quando a un certo punto conobbe Leonard Woolf. Lei nasce Stevens di famiglia Virginia, il papà si chiamava Stevens, Woolf è il cognome del marito, Leonard che era anche editore, si sposa con Leonard, hanno una relazione di amicizia, quindi di amore, sono molto amici e lui e insieme fondano la Hogarth Press, che è la casa editrice con la quale Virginia esce con tutte le sue opere. Quindi visse una vita relativamente tranquilla, dal punto di vista materiale, economico, non le mancò mai nulla, sappiamo però che non era per niente tranquilla dal punto di vista spirituale, tant'è vero che poi si suicida a 59 anni buttandosi nel fiume, si uscì di casa, si riempì le tasche di pietra e si buttò nel fiume. Ho visto The Hours. Sì. Ho letto la lettera che ha lasciato al marito. Sì. Ma in realtà lei dice che sentiva le voci, sì. Non era per niente pazza, secondo me era lucidissima, quello che lei era in realtà era una medium, era una donna con una forte tendenza spirituale non riconosciuta, perché nessuno in quel momento storico del suo entourage avrebbe potuto aiutarla a capire che era semplicemente una tendenza spirituale. Infatti lei si sentì molto molto collegata con Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, scrittrice neozelandese, trapiantata a Londra, ci sono i suoi racconti letti da me sul canale YouTube, se volete leggere i racconti di Catherine Mansfield, che sono dei gioiellini. Lo stile di Catherine Mansfield è molto simile a quello di Virginia Woolf, cioè pennellate, senza storia. Virginia Woolf dice che la storia è banale, che la storia è volgare, che le donne devono trovare il modo di scrivere qualcosa che non sia una storia, perché le storie già le scrivono gli uomini. Le donne devono indagare la psiche, i dettagli che ci sono dietro le storie, per questo che lei scrive in questa maniera così assurda, perché lei scrive seguendo il filo dei suoi pensieri, non racconta una storia, racconta quello che succede dentro di lei mentre pensa a una storia. Quindi inventa uno stile femminile di scrittura. E si può dire che Catherine Mansfield poi lo perfeziona, perché lo porta veramente alla sua massima espressione. Infatti, mentre la prosa di Virginia Woolf, i romanzi sono veramente pesanti, io stessa faccio fatica, perché cioè, dopo un po' ti perdi, ti trovi nei tuoi pensieri, Catherine Mansfield invece è seguibilissima, godibilissima, perché lei riesce a trovare la giusta misura, a prendere l'eredità di Virginia Woolf, anche se sono contemporanee, però prende questo modo di analizzare in modo femminile quello che succede, però lo fa senza snaturare completamente il senso della storia, quindi si riesce a seguirla. Ossia, lei racconta dei piccoli momenti di vita, dei ricordi della sua infanzia in Nuova Zelanda, ricordi pennellate, ma che sono veramente godibili, e forse il vantaggio di Catherine Mansfield è quello che scrive racconti e non romanzi. Forse se anche Virginia avesse scritto racconti, cioè cose che si risolvessero in massimo 10 pagine, sarebbe andato meglio, piuttosto che scrivere romanzi con questi, non voglio usare la parola, che se no dovrei fermare, che sono obiettivamente difficili da seguire. Tanto è vero che per me la vera Virginia Woolf si ritrova nei suoi saggi, Tre Guinée e Una stanza tutta per sé, lì veramente viene fuori, siccome sono la trascrizione in prosa dei suoi discorsi, lì viene fuori qualcosa di logico che si può seguire in modo logico. Ma oltretutto la cosa, non ti voglio interrompere, ma un'osservazione che mi sento di fare riguardo alla lucidità di Virginia è proprio il fatto che lei in realtà in alcuni momenti può sembrare che non segua un filo logico, mentre è in grado di partire con una metafora 20 pagine prima e ritornarci 20 pagine dopo. Certo. Che quando la risenti dici, ok, adesso ho chiaro esattamente tutto il quadro, però durante il processo è faticoso, ma sì. Quando ti ritrovi al punto di partenza finalmente si chiarisce tutto. E secondo me la sua lucidità sta proprio nel riuscire a gestire tutto il mentre. Se le ha pensato che si vuole arrivare. Sì. Ed è ben lontano dall'essere pazza, per me sì. Non è per niente pazza. È una donna che aveva un profondo senso dello spirito, ma che non lo sapeva. Non lo sapeva perché in quel momento tutto ciò che era antivittoriano doveva essere per forza ateo, doveva essere per forza materiale, perché sennò non potevano opporsi al bigottismo della regina Vittoria, no? E quindi lei si è trovata a dover gestire questa spiritualità innata con l'ateismo del gruppo di Bloomsbury, non a caso c'era Milton Strachey, non a caso c'era Keynes, cioè che erano tutti estremamente materiali, estremamente razionali. E lei però si trovò in grandissima sintonia con Catherine Mansfield. Lei dice che è l'unica donna, Catherine, che avrebbe potuto essere sua concorrente, tra virgolette, ma lo dice in modo affettuoso, e le chiede di scrivere per la Hogarth Press. Cioè Virginia Woolf vuole editare Catherine Mansfield. Quindi in realtà non sono in antitesi, perché l'aiuta lei. Catherine Mansfield è una donna di una... muore giovanissima, muore a... intorno ai 30 anni di tesi, mi spiace, ma questo è. Ma che cosa succede? Che Catherine Mansfield invece, al contrario di Virginia Woolf, che rinnegò la sua tensione spirituale fino all'ultimo, Catherine Mansfield la riconobbe e la abbracciò, forse perché era nata in Nuova Zelanda, quindi aveva più radici, più native, più vicine alla cultura tribale rispetto all'inglesissima, londinesissima Virginia. Quindi Catherine Mansfield, a un certo punto malata di tubercolosi, dice: io mi rendo conto che non riesco a guarire con le medicine. Quindi vuol dire che il mio non è un male del corpo, è un male dell'anima. E vuole cercare un rimedio per la sua anima. Cosa fa? Va da Gurdjieff a Parigi, nel centro spirituale di Gurdjieff. Gurdjieff, maestro spirituale bulgaro, lo conoscete, avete sentito parlare di Gurdjieff. Okay. Quindi Catherine Mansfield cerca, va a vivere in comunità, ci va coscientemente, consapevolmente, va e cerca una comunità spirituale, perché nel centro di, non mi ricordo come si chiama, questo centro di rifugio, che era, mi sembra, Versailles, fuori Parigi, vivevano come in un ashram, quindi in modo spirituale, come in qualunque comunità spirituale si potrebbe vivere oggi. E lei va lì perché cerca ristoro, cerca guarigione per la sua anima. Immaginatevi, cioè siamo agli inizi del 300, quanto avanti era sta donna. Poi muore lo stesso, perché ormai comunque sputava sangue, ormai comunque i polmoni erano minati. Però quando muore Catherine è in pace, tant'è vero che suo marito, quando la va, va da sola senza il marito, non vuole nessuno, vuole andare a farsi la sua esperienza spirituale da sola. Quando alla fine muore, perché ha un'ultima emissione di sangue, dove praticamente muore dissanguata, sembrava che stesse meglio, invece nel giro di poche ore se ne va, il marito viene chiamato, va a vederla e dice: io non l'ho mai vista così bella, sembra trasfigurata, era luminosa Catherine Mansfield. Quindi c'è questo parallelo di sottofondo tra Catherine, cioè queste donne secondo me non possono mai essere prese da sole, perché viaggiano sempre a coppie, per qualche motivo è come se ognuna di loro stesse andando per mano con un'altra e guardando di volta in volta chi in quel momento sta camminando con chi, noi riusciamo a vedere più a tutto tondo, perché è come se ognuna di loro fosse riuscita in un dato momento a incarnare una certa sfaccettatura di un tutto più grande. Virginia Woolf non ha avuto il coraggio, forse non ha avuto l'educazione per riconoscere la sua parte spirituale, ma è stata attratta da Catherine Mansfield, che invece lo ha fatto ed è morta in uno stato di estasi. Ma se noi vogliamo andare a vedere, lei, Virginia, ce l'ha lasciata la traccia del motivo del suo suicidio, si legge molto chiaramente, perché lei in una stanza tutta in tre linee scrive: le donne si trovano tra Scilla e Caridi. Dietro c'è il sistema patriarcale, le pareti domestiche con il loro nulla, la loro immoralità, la loro ipocrisia e il loro servilismo. Questo è il patriarcato. Davanti c'è il mondo della vita pubblica, in tre linee, questo dove parla delle donne che si devono potersi mantenere. Davanti c'è la vita pubblica, ossia il mondo del lavoro, anche per le donne, con la sua possessività, la sua invidia, la sua aggressività, la sua avidità. Quindi lei si sente schiacciata tra due opportunità, lei si rende conto che il mondo del lavoro non è la risposta, anche perché le donne vengono guardate molto meno, lei lo scrive chiaramente, che un arcivescovo guadagna 15.000 sterline l'anno e una diaconessa guadagna 150. Quindi lei è consapevole che neanche il mondo del lavoro è la risposta per le donne. Dice: l'uno, cioè il mondo del patriarcato, ci tiene prigioniere come schiave nell'area, l'altro ci obbliga, come bruchi in fila, a fare il giro tondo attorno all'albero sacro della proprietà privata, il mondo del lavoro. La nostra è una scelta tra due mali, scrive Virginia. Questo lo scrive nel suo diario, scusate. L'uno peggiore dell'altro. non faremo meglio buttarci nel fiume, cavolo. Più chiaro di così impossibile che a nessuno sia mai venuto in mente che non era pazza, che lei lo aveva lasciato scritto anni prima del perché si è suicidato, perché non ha visto scelta. Vi ricordate all'inizio, alla prima lezione, quando ho detto lei ha visto la qualità, la vista chiara, visto che non c'era niente da fare. Quindi quando a un certo punto si è resa conto che aveva detto e fatto tutto quello che poteva fare, aveva esaurito la commissione, ha detto ok ragazzi, da adesso in poi ho bisogno di qualcuno che prenda le mie redini, perché aveva già 59 anni e non ce la faceva più, era sana fisicamente. Non faremo meglio a buttarci nel fiume, a rinunciare alla partita, a dichiarare che la vita umana è un errore e farla finita? A me sembra proprio un testamento chiarissimo. E più avanti, in una stanza tutta per sé, dice: perché sono così povere le donne? Finché questa domanda diventava 50 domande, perché ci sono 50 motivi diversi, e queste 50 domande saltavano disperatamente nel fiume e si perdevano tra i suoi flutti. Quindi non era pazza, era solo, ma non era neanche disperata, era solo una donna che si era resa conto che in questa dimensione duale non ce n'è, non si può uscire. Quindi ha lottato finché ha ritenuto di dover fare, che a un certo punto non ce l'ha più fatta. Cioè capiva che dovunque lei andasse non stava bene. E se n'è andata, punto e basta. Ecco, praticamente la fine della vita, la fine, Leonard la prende e la porta via da Londra, perché erano tutti d'accordo, il medico eccetera eccetera, che Londra le facesse male perché le faceva venire crisi di nervi, la prende e la porta a vivere fuori in campagna, ma non migliora la situazione, perché sostanzialmente il problema di Virginia era un problema interiore. Quindi lei muore praticamente 3 anni dopo aver pubblicato Una stanza tutta per sé, che come sapete è l'insieme delle conferenze che lei andò a tenere per le ragazze all'università, che le avevano chiesto di parlare sulla donna e la professione di scrittrice. Questo libro è quello che lei ha raccontato alle ragazze. Ora io ho selezionato alcuni brani e va bene se vado avanti a leggere o qualcuno vuole dire qualcosa, visto che sono... Mi chiedere una suggestione riguardo alla questione del lavoro della scrittrice. Una cosa che mi ha molto colpito sempre nelle tre linee. Io ho fatto appunto, come dicevi tu prima, andrebbero integrati le tre linee in una stanza tutta per sé. Sì, le tre insieme. Tanto che lei parla del mestiere di scrivere, lei scrive anche un libro che è il diario di una scrittrice, in cui parla di come lei scrive il suo processo creativo e come... quello che mi ha profondamente scosso è il fatto che lei scrittrice parli del mestiere di scrittrice della donna come prostituzione dell'anima, e dice: una donna che non è libera di scrivere ciò che vuole, ma lo fa perché si deve mantenere, e per poterti mantenere, per poter vendere, devi scegliere compromessi con il mercato, non è una donna emancipata. Il suo mantenersi è un prostituirsi. E è in questo processo che io vedo proprio il lascito, e faccio il collegamento con questo testamento, il lascito di cui parlavamo prima. Sì. Proprio il fatto che in realtà lei scriva proprio per dare voce a questo sentire, a questa consapevolezza di dare degli strumenti alle donne per poter lavorare sull'emancipazione, anche se lei è arrivata al punto di sapere con certezza se non può più portare avanti questa battaglia. Non so se siete d'accordo. Sì, sì, assolutamente. E anzi, adesso mi viene anche da aggiungere che probabilmente lei aveva capito che faceva parte del percorso, cioè che è quello che stai dicendo tu adesso. Cioè, c'è un momento in cui le donne devono emanciparsi, quindi scrivere, perché se non lo fanno non arrivano neanche a capire che anche scrivere è inutile. Quindi alla fine lei si trova, io ho avuto l'impressione che queste due opere fondamentali, Tre linee e Una stanza tutta per sé, fossero state una sorta di riflessione a voce alta sua. Cioè lei quando ha iniziato a scrivere non sapeva dove sarebbe andata a parare, ma nel corso d'opera si è resa conto, a un certo punto è arrivata alla conclusione, che anche scrivere non era la risposta, che anche lavorare nel mondo degli uomini non era la risposta. Si è trovata lì a dire: beh, ma allora cosa facciamo? Non lo sapeva prima, però facendo questo lavoro di scandaglio, no, per scrivere, Questo, allora, Treguinet, lo sapete, è stato scritto perché il ministro di non so che cosa le aveva scritto, le aveva chiesto di scrivere un'opera contro la guerra, no? E lei in Treguinet praticamente parla del patriarcato, dice: come faccio a scrivere un'opera contro la guerra quando ci sono gli uomini quelli che vanno in guerra, glielo devi chiedere agli uomini, non a me. E io sono una donna, quindi è chiaro che sono contro la guerra, ma non sono io quella che va a combattere. E analizzando tutta la questione del patriarcato, è lì che arriva a chiedersi: ma sarà bene che le ragazze vadano a scuola? Perché se poi quello che otteniamo è che diventano fautrici della guerra perché hanno imparato a pensare da uomini, allora è meglio che non vadano a scuola. Tutto questo però si chiarisce man mano che lei scrive. Prima non, io ho avuto la sensazione che ci arrivi mentre scrive, no? Quindi alla fine lei si trova con queste due opere concluse e che lei stessa si rende conto che qualunque cosa si faccia è inutile. Quindi che l'unico modo è veramente quello di tirarsi fuori, lasciare che ognuno faccia la sua esperienza, perché il punto non è risolvere in questa dimensione. Il punto, credo che lei avesse capito, che è quello che sto capendo io adesso alla mia età, è aver fatto del tuo meglio per comprendere e a un certo punto mollare. Cioè dire: ok, ho fatto quello che dovevo, basta, non posso fare altro. Non posso rimproverarmi di non aver dato il mio contributo, ma mi rendo conto che il mondo duale non si può cambiare. E questo è il punto d'approdo, che però se non passi tutti i vari step non ci arrivi. Incluso Mary Wollstonecraft, perché lei, Mary Wollstonecraft, chi vede? Vede quella che è andata alle barricate, che è andata a Parigi quando c'era la rivoluzione, quando c'era le barricate, cosa che lei non ha potuto fare. Mary rappresenta la parte di Virginia che avrebbe voluto andare a Parigi a combattere, e Catherine rappresenta la parte di Virginia che è andata da Burgess, che ha abbracciato la sua spiritualità e non l'ha rinnegata. Quindi alla fine di tutto questo Virginia si rende conto che ogni momento della vita serve, che tutte le esperienze sono buone, che il punto d'arrivo è quello di non far più nulla, tirarsi, cioè arrivare praticamente allo zen, al... Ok, leggo questi pezzettini. Dunque, lei, lo sapete, parla in Treguinet, parla della disparità tra stipendi delle donne e stipendi degli uomini, quindi dice che le donne, anche quelle che lavorano, devono vivere con pochissimi soldi, che molto spesso sono malnutrite, non riescono a scaldare la casa. Questo succede anche alle studentesse, ne avevamo parlato la volta scorsa. E dice non hanno, e soprattutto non hanno diritto a stipendio come madri, nonostante sia l'unico lavoro che non ha mai fine. Il diritto morale delle donne a possedere metà dei beni del marito, che c'era sulla carta, perché avevano già vinto, le suffragette avevano già vinto, però non viene rispettato, perché le donne lasciano, cioè non combattono per questo, lasciano i loro beni agli uomini e si accontentano, perpetuo vivere. Poi dice: la guerra dipende dalla discriminazione dei sessi, perché è agli uomini che piace combattere e la società è maschile. Cosa imparano le ragazze all'università? A odiare la guerra o a giustificarla? Imparano la competizione all'università. Quindi non è un buon sistema neanche quello di far studiare le ragazze. Dice: le donne devono guadagnare per emanciparsi, ma tutte le professioni sono indesiderabili. La domanda è: come possiamo restare esseri umani e abolire la guerra anche se lavoriamo? Cioè è di una lucidità questa roba qui. Cerchiamo le risposte nelle biografie, dice. Cioè cosa hanno fatto le nostre antenate? Andava anche lei a cercare l'internet, poveretta. Questa volta delle donne che hanno esercitato le libere professioni. Dice: nelle biografie non si trovano risposte perché non ci sono biografie di donne, non esistono. L'unica professione possibile era la governante, e anche di questo ci sono ben poche biografie, a parte con quello che hanno scritto le sorelle Bronte. Dal diario di una governante, lei trova nella biblioteca, trova il diario di una governante e legge: oh, come ardevo dal desiderio di imparare il latino, il francese, le lettere, le arti, qualunque cosa piuttosto che la noia di cucire, di far lezioni, di copiare in bella scrittura, lavare i piatti tutti i giorni. Perché, scriveva questa governante anonima del diario, perché alle ragazze non permettono di studiare fisica, astronomia, teologia, chimica, botanica, logica e matematica? Scrive, ecco, lei scrive di altre scrittrici con amicizia e profondità. Questo è un bellissimo messaggio che ci viene da Virginia Woolf, perché di tutte quante, incluso di Elizabeth Barrett Browning, per esempio, della quale avrebbe potuto avere anche un'idea così un pochino snob, incluso l'uso di George Eliot, che si è cambiata il nome, ha preso il nome maschile, di George Sand, tutte quante ne parlano molto bene, piace molto George Sand a Virginia Woolf. Quindi lei aveva già capito che le donne si devono sostenere tra di loro, era dentro nella sorellanza, e probabilmente i tempi non erano maturi per poter parlare in cerchio tra donne come quello che stiamo facendo noi adesso, perché lei è vero che teneva conferenze per le ragazze, ma di certo non era uno scambio da pari pari come può essere il nostro. Lei era l'insegnante, le altre. Lei aveva degli scambi con la sorella, con Catherine Mansfield, con Dora Carrington, l'altra pittrice che era dentro nel gruppo di Bloomsbury, però non erano cerchi di donne, erano così delle cose molto più, tra l'altro anche Dora Carrington si è suicidata, quindi erano all'inizio loro del cammino della sorellanza e stavano ancora cercando il modo per poter camminare insieme rafforzando il... Siete stanche ragazze? Scusa, faccio una cosa per me, perché nel momento in cui l'hai chiesto mi sono girata, ti ho guardata e non ci ho mai visto, non è stressa le cose. Ma perché io sono croccata, abbiate più. Cioè, volete che sia chiaro? Io sono nordica. Io ho la posizione, ma è il caldo che... Che ci mette alla prova. Sì. Perché in realtà è interessantissimo quello che stiamo facendo, però... No, io stavo invece pensando mentre parlavi, facendo le mie considerazioni su ciò che è la sorellanza, che comunque vedo ancora tanta complicità tra le donne. Complicità o competizione? Competizione. Sì. Terrificante. È una cosa devastante. Sì, sì. Siamo ancora lì, ma cioè ti dico che dai tempi di Christine, anzi dai tempi di Degarda e Winger non ci siamo mossi, siamo ancora ai tempi di Degarda. Perché quello che fai tu è quello che fai tu ed è il meglio. Per quanto tu possa avere le sorelle attorno, ma quello che fai tu è meglio. Sì. O quello che faccio io, quello che fai tu. Cioè, io non riesco a vedere ancora la sorellanza che tu dici. No, cioè ci sono dei semini. Loro due per esempio sono un bel esempio, però loro hanno 30 anni meno di noi, 20 anni meno di noi, per cui probabilmente la loro generazione ci arriverà. Noi siamo ancora state addestrate alla competizione, è faticosissimo per noi. Anche noi, anche voi. E poi oltretutto siamo calate in un quotidiano che la alimenta, la pubblicità lo alimenta, e le cose che ci vengono, gli insegnamenti che ci vengono impartiti da alcune donne che non hanno questo tipo di coscienza, la alimenta, e tant'è che noi con tante nostre coetanee che fanno il percorso che facciamo noi, la anche con alcune che lo fanno, noi la subiamo in un certo senso questa conflittualità, e tante volte anche cercare di contrastarla e ulteriormente alimentarla, quindi forse ci arriverà la generazione dopo la nostra, forse quella dopo ancora, perché io mi sento immersa in questo liquido conflittuale. Sì, perché credo che in realtà ci sia un interesse di base nel mantenere la donna la dualità, la dualità, i guardiani della dualità, certo. Tra l'altro, anche sulla scuola delle donne c'è il libro di Sofia. Sì. Sofia, dato il permesso di leggere. Sì. Se avete voglia, c'è un sacco di roba sul canale, se solo avete voglia di ascoltare. Sì, questo libro, Il conflitto fra donne, scritto da una sciamana tedesca contemporanea, Sofia Lamante, che fa un bel disagio. Forse all'epoca di Virginia mi fa pensare che le donne magari avevano meno libertà, meno possibilità di scegliere, ma che fossero più a contatto con loro stesse, con la loro interiorità, quello che io trovo che sia molto più difficile adesso, perché ci sono tante cose che ci distorgono, cioè il progetto è quello di farci sentire sempre meno a contatto con la nostra essenza. Il progetto, diciamo, dell'ora. E forse appunto ci vorrà tempo, ci arriveremo a sentire il nostro valore, anche la trasmissione dei valori da parte dei genitori, della madre, che che adesso sono disvalori, vengono visti come disvalori, tutto quello che scintilla è un valore, quello che è invece un valore dell'anima non viene più considerato. Vabbè, io non so se c'entra con quello che tu dici, però lei, Virginia, scrive: la notorietà abbaglia e fuorvia come le marce e le medaglie con il loro potere ipnotico. Ed è uno specchio preciso anche del momento che stiamo vivendo ora, ma lo vedo anche con le mie alunne e i bambini in generale. I follower. Gli youtuber. Quando loro hanno come massima aspirazione quella di diventare youtuber, perché le persone su YouTube, qualunque cosa facciano, godono subito di immediata notorietà. Io no, anche un po', beh, io potrei anche denudarmi. Perché sono quelle in realtà che attirano. Cioè, più uno si toglie valore e si dileggia anche brutalmente degli altri, più emerge. Secondo me, a proposito anche del commento che dicevi prima, no? Anche una cosa che fa molto ascolto è proprio l'attrito. Sì, fondamentalmente qualsiasi stupidaggine uno faccia porti, qualsiasi sfidimento alla fine della persona o delle altre persone va benissimo, e ancora meglio di dare la possibilità alle persone di dire quello che pensano, ma in realtà portando fuori la carenza. La cattiveria. Allora, lei scrive: dobbiamo estinguere le luci volgari della pubblicità manovrate da mani incompetenti. E io aggiungerei invece più che incompetenti, proprio interessate, perché sono mantenute in vita dopo le polemiche, perché più siamo divisi, perché ci divide timpera, no? Esatto. La mente, qui secondo me lei è proprio, si vede tanto la sua impostazione spirituale, la sua impostazione anche sciamanica inconsapevole. La mente può essere preservata solo nell'oscurità, che è il vuoto sciamanico. Nell'oscurità che cosa significa? Non al buio, significa nel silenzio della mente. Questa non è una donna che ha fatto yoga o che ha, ci è arrivata da sola questa cosa. Può essere preservata solo nell'oscurità. Cos'è l'oscurità, il vuoto sciamanico? È il momento prima del nascere della forma, ossia l'oceano delle infinite possibilità, il tutto indifferenziato, che è un concetto squisitamente sciamanico. La pubblicità, scrive ancora, impedisce alla mente di cambiare e creare. Perché? Perché crea rumore, frastorna. Come si integra, ecco, per quelle si fa la domanda, come si integra questo con il diritto allo studio? Qui che lei si è trovata spiazzata, perché lei aveva queste intuizioni profonde, spirituali, sciamaniche, mistiche, no? Bisogna togliere pubblicità, bisogna stare nel silenzio. Però dall'altra parte diceva alle ragazze, parlava del diritto allo studio, quindi non ha, lei in quella sua vita non ha trovato il modo di conciliare le due cose, neanche io francamente, perché sì, adesso con la scuola delle donne sto conciliando il diritto allo studio con la spiritualità, questo sì. Probabilmente, cioè utilizzare il nostro diritto allo studio, ma non nelle scuole chiaramente, però il poterci prendere del tempo per stare qui a discutere di letteratura, ma in modo spirituale. Probabilmente noi siamo le eredi di Virginia, cioè abbiamo trovato il modo per fare quello che lei non è riuscita a fare. Quindi, ai tempi suoi non erano mature le donne per poter stare. Sicuramente c'erano i salotti, si facevano i salotti, si parlava di letteratura, ma questo già dai tempi di Madame Bestaille, piuttosto che cioè le grandi donne del Settecento francese, ma non si parlava di spiritualità in quei salotti, cioè era completamente assente la parte spirituale, che è quella che stiamo introducendo noi adesso. E qui il cambiamento grosso, in realtà. Poi parlava bene del sacerdozio, che a tempo di Cristo era considerato, le donne e gli uomini erano considerati alla pari, poi arriva San Paolo e dice che invece le donne non possono dominare sugli uomini, per cui il sacerdozio diventa una professione, quindi i vescovi diventano dei professionisti pagatissimi, e le figure delle donne, da prima che erano profetesse, ascoltate, onorate, rispettate, però finché lo facevano in modo gratuito, quando poi si profila il fatto di doverle pagare perché diventa una professione quella della Chiesa, quindi come diaconesse, allora vengono pagate pochissimo, perché siccome la Chiesa è povera, pagare di più le donne significa pagare di meno gli uomini, questo lo scrive lei, no? Per cui dice, se Cristo stesso ha scritto, ha detto che donne e uomini erano uguali, perché poi arriva qualcuno che invece dice che le donne devono essere sottomesse e non possono, il punto era le donne non possono dominare sugli uomini, quindi da lì poi è nato, quindi le donne non possono insegnare, le donne, tutto quello che fa pensare al dominio della donna sull'uomo, soprattutto l'insegnamento, viene cassato. Per quel motivo alle donne è stato impedito poi di studiare e di insegnare, per non dominare sugli uomini. Ma questo è San Paolo di Tarso, no? E poi parla delle fissazioni infantili, fa tutta una disamina sulle fissazioni infantili, che sono quelli dei padri che non consentono alle figlie non solo di sposarsi, come Charlotte Bronte per esempio, o Elizabeth Barrett, che dovette scappare di casa per potersi sposare, ma non permettono alle figlie neanche di guadagnarsi la vita. E fa l'esempio proprio di una ragazza alla quale era stato chiesto da un'amica di dare lezioni di matematica a suo figlio e le aveva offerto dei soldi. Questa ragazza era figlia di un nobile e il padre non le ha dato il permesso, ha detto se vuoi lo fai gratis, ma non ti fai pagare perché non hai bisogno. Perché non hai bisogno. Sì. Perché non hai bisogno di quei soldi. Perché io ti mantengo. Esatto. Sì, l'ho letta quella cosa lì. Ok. Solo che lei poveretta gli dava 40... Sì, 40 sterline all'anno e lei non ce la faceva. Cioè, certo. Ha detto giusto, faccio sta cosa e mi metto a lavorare, no? E invece lui gli ha detto no, non ti permetto perché io ti mantengo, esatto. Non hai bisogno, se lo fai gratis. Oppure ti do io i soldi. Ti do io i soldi. Chiaro, e lei dice, ma perché, e dice il fratello, no? Perché mio fratello può guadagnarsi la vita in Parlamento e io non posso? Perché, risponde il padre, tuo fratello deve avere l'onore, deve vedere soddisfatta la sua virilità nel mantenere la moglie e i figli, tu invece sarai mantenuta a tua volta da un marito. Allora, lei, praticamente Virginia Woolf, si rende conto che queste sono fissazioni infantili, ossia proprio una psicosi, perché cosa succede se la figlia si guadagna da vivere, il padre perde il controllo. Quindi è una questione di controllo, non è una questione di orgoglio, di dignità. Cioè lei lo mette proprio alla stregua delle paranoie dei bambini, no? L'indipendenza economica è collegata alla virilità e pertanto non può essere femminile, le risponde il padre. L'uomo è orgoglioso di mantenere una o più donne, ma la donna non lo può fare perché la donna non è virile. Emerge fortemente dopo un concetto di schiavitù, certo. Legalizzata all'interno di questo tipo di processo. Sì, e oltretutto la fissazione infantile dei padri che negano felicità e libertà alle figlie era sostenuta dalla legge e dalla proprietà, perché se la donna disobbediva al padre, nel senso che si rifiutava di fare il matrimonio conveniente o si rifiutava di fare la mantenuta e andava a cercarsi un lavoro, quando si sapeva in giro, e si sapeva in giro, che il padre non era d'accordo, nessuno le dava lavoro, neanche come governante. Cioè il padre doveva essere d'accordo comunque. Le sorelle Bronte avevano dal padre il permesso di fare le governanti, perché se il padre gliel'avesse proibito, nessuno le avrebbe accolte in casa. Nessuno, anche se ormai i tempi erano maturi, ma la prassi era quella che qualunque cosa doveva, perfino La signora di Whitefield Hall, di Anne Bronte, lei che il marito le metteva le corna, le picchiava, era violento, ubriacone, a un certo punto va a chiedergli il permesso di potersene andare. Avete sentito, vi ricordate? Lei dice, tanto non mi ami più, cosa stiamo insieme a fare? Io me ne vado, ti lascio libero di stare con la tua amante. Lui aveva un amante che tutti sapevano. E lui non le dà il permesso e lei non se ne può andare, perché il marito non le dà il permesso, per potersene andare deve scappare. Quindi si mette fuori dalla legge. Virginia fu considerata, questa è una cosa interessante, intanto che per finanziarsi gli studi le ragazze rinunciavano alla sana alimentazione e vivevano di patate, questo lo scrive lei, perciò poi morivano di tisi, no? Perché avevano freddo e avevano fame. Virginia fu considerata una figura minore, questo l'ho sentito in una conferenza, si è parlato un po' di spagnolo, c'è una bellissima conferenza di Laura Freixas, che è una scrittrice femminista spagnola, che fa delle conferenze stupende su tante scrittrici, ma questa su Virginia Woolf è proprio bella. Laura Freixas, con la X, Freixas. Ah, ok. Fu considerata una figura minore della letteratura Virginia Woolf, fino a che non uscì la famosa commedia Chi ha paura di Virginia Woolf. Quindi noi conosciamo Virginia Woolf perché nel 62 uscì questa commedia che non c'entra niente con lei, e che però praticamente parla di una coppia il cui matrimonio era in crisi, che non si vede questa cosa fino a che una sera non cominciano a bere tutti e due, non cominciano a rinfacciarsi, quindi lui si rende conto che la moglie era insoddisfatta, vengono fuori tutte le insoddisfazioni e quindi il marito comincia a percepire come un pericolo per la sua immagine il fatto che la donna, che sua moglie, possa essere emancipata, possa essere indipendente. Se non fosse stato per questa commedia che parla in modo negativo di Virginia Woolf e del suo lavoro, noi manco la conosceremmo. Quindi ci è voluto una commedia che dà di lei un'immagine, l'immagine di una pazza, perché noi possiamo arrivare, altrimenti sarebbe finita anche lei nel dimenticatoio. Pensate, Hildegarda di Bingen è rimasta sconosciuta per 1000 anni, finché non è arrivato un papa tedesco a riesumare, se no non sapremo niente neanche di lei. Allora, in una stanza tutta per sé, dice il professore che scrive libri sulle donne, è il proprietario del giornale o della casa editrice ed è il suo direttore e redattore ed è il ministro degli esteri e il giudice, paga gli azionisti, è capitano alla squadra di cricket e lascia milioni di beneficenze ai collegi maschili che lui stesso dirige, ed è questo che scrive sulle donne. Quindi dice, per forza non ci sono biografie di donne che siano credibili, cioè gli uomini che parlano delle donne lo fanno solo per irriderle. Quindi lo stesso messaggio di Mary, lo stesso messaggio di Christine de Pizan. Lei eredita questo filone e ancora non ne esce. Ci sono innumerevoli libri sulle donne scritti da uomini nel Novecento. E dice, forse dobbiamo biasimare la campagna per il voto alle donne, questo è di una finezza, perché dice, è stata questa campagna per il voto alle donne che deve aver originato negli uomini uno straordinario desiderio di autoaffermazione. Perché finché le donne non hanno messo in discussione la virilità degli uomini chiedendo il voto, gli uomini non sono stati così, così offensivi nei confronti delle donne. Dice, questa produzione letteraria che parla così male delle donne deve essere proprio il risultato del fatto che ci siamo permesse di chiedere, no? In realtà sappiamo poi che non è vero, probabilmente Virginia non lesse mai Christine de Pizan, quindi non sapeva che già ai tempi di Christine de Pizan c'era Boccaccio che scriveva malissimo delle donne, quindi non era una cosa solo del Novecento. Dice, quando si è sfidati, anche se da parte di un gruppetto di donne mal vestite, si risponde sempre in maniera esagerata, quindi chiaramente dà dell'uomo un'immagine di debolezza, perché chi è forte non ha bisogno di reagire con questa violenza, no? E lei dice, c'è questa continua ripetizione della parola io nella letteratura maschile e io la trovo così noiosa, bellissima. Gli uomini scrivono con il lato maschile del cervello e le donne ricercano qualcosa che non trovano, semplicemente perché i libri sono scritti in modo maschile. Lei dice che la scrittura maschile è fatta e composta, quindi che nessuna donna può essere soddisfatta dalla scrittura maschile. Una donna non riesce a scovare nelle opere maschili quella fonte di perpetua vita. Il concetto di perpetua vita è la continuità, questo è un altro concetto sciamanico, mistico, cioè la vita che continua a riprodursi, non la linea dalla vita, dalla nascita alla morte. Cioè, lei aveva questi sprazzi, queste intuizioni pazzesche, ma le reprimeva. Quindi le donne cercano quella fonte di perpetua vita e non la trovano nella letteratura maschile, perché i libri maschili celebrano le virtù maschili e sostengono i valori maschili e descrivono il mondo degli uomini e le loro emozioni. Quindi quando le donne leggono i libri degli uomini, che cosa assimilano? Preferiscono, ecco, lei dice, perché deve essere più di valore un racconto, un libro che parla della guerra, piuttosto che uno che parla di un negozio di cappelli? Perché un libro che parla di un racconto che parla di un negozio di cappelli deve essere squalificato come letteratura femminile, mentre uno che parla di guerre, di ammazzamenti di Napoleone Bonaparte è grande letteratura. Lei dice, io non ne posso più di leggere libri di guerra, che gli uomini non scrivono di altro, no? Però perché chi l'ha detto, chi ha deciso che uno vale e l'altro no? Le donne, questa qua è la famosa frase, non hanno avuto tempo di scrivere perché sono state impegnate a partorire, nutrire e crescere 6 milioni di esseri umani che popolano il pianeta. E lo dice con grande empatia, grande compassione. Io sento in Virginia Woolf una grandissima compassione, in senso empatico, non in senso di pietà nei confronti delle donne, cioè pur non essendo stata madre. Lei ha vissuto sulla sua pelle lo strazio, no? quello che devono affrontare le donne, io lo sento fortemente, e a un certo punto non ha retto più, cioè si è resa conto che questo strazio non finisce, non sarebbe finito e non finirà, perché è la dualità che è così. Ah, tanto che c'è una di per sé, in una stata tutta per sé, in cui lei parla di quel libro, che a un certo punto la colpisce moltissimo, perché ci sono due donne che si vogliono bene, sì, e viene dichiarato. Sì. E lei dice, del resto, se noi prendessimo tutta la letteratura maschile e togliessimo tutti i conflitti tra le donne, bravo, non resterebbe nulla della trama, perché sono basate fondamentalmente su quello, perché abbiamo la questione del conflitto. Certo. Anche lei l'aveva registrato. Sì. Sì, le due donne che a un certo punto dichiarano di essere amiche, no? Mm-hmm. Sì. E lei stessa dice, a me piacciono le donne, ma non lo diceva in senso sessuale, cioè mi piacciono per come sono esseri umani, lei stava volentieri con le donne. E termina, e secondo me qui anche c'è una dichiarazione sua di sconfitta, infatti 3 anni dopo poi si suiciderà, non di sconfitta, ma di tirare l'imbarco, come si dice. Dice alle ragazze, termina comunque la sua conferenza con questa frase: non tentate di influenzare gli altri scrivendo, tentate di essere voi stessi, punto. Cioè scrivete come processo meditativo, secondo me è questo che lei fa. Lei scrive per sé perché scrivendo si chiarisce le idee ed è arrivata davvero al risveglio. Lei prima di suicidarsi è arrivata al risveglio, ci è arrivata, perché queste sono parole di una donna risvegliata, di una donna che ha visto chiaramente tutte le sfaccettature della dualità e ha capito che non c'era un altro modo. Beh, avrebbe potuto aspettare di morire di morte naturale, forse. Sai che anche nel momento in cui sei consapevole di aver visto tutte le sfaccettature e di aver dato voce a ogni più pensiero, probabilmente sei tanto che la tua funzione in questo livello di realtà è semplicemente concluda. Sì. Più come arrendersi il suo, mi sembra davvero un dire ok, basta, ho concluso, non ho più altro sì, da fare. Sì. Però lei appunto probabilmente ha dovuto fare i conti con la società e la società la considerava pazza, il marito la credeva pazza. Lei voleva tornare a Londra, a un certo punto il marito non glielo voleva permettere perché diceva Londra stai male, ti vengono le crisi di nervi. Quindi se lei invece di essere trattata da malata avesse avuto chi la faceva sentire sostenuta in questi suoi momenti di illuminazione, probabilmente non avrebbe avuto bisogno di suicidarsi. Quindi c'è questa negli scritti di Virginia la questione stilistica che lei ha completamente rivoluzionato, perché ha cominciato a scrivere in modo femminile seguendo la linea del pensiero, quindi seguendo l'emisfero femminile intuitivo del cervello, non l'emisfero razionale lineare maschile. E poi la questione spirituale, ossia il tempo non esiste, perché nei suoi libri il tempo non esiste, c'è un unico qui e ora dilatato, e questa anche è un'altra intuizione spirituale, il tempo non esiste, vero? Però ci sono quelli che ci arrivano dopo anni di meditazione, lei ci è arrivata così. La realtà è creata da chi la osserva, questo è un altro, nella signora Dalloway, questo anche in Città al Faro esce fuori molto chiaramente, la realtà oggettiva non esiste perché dipende da chi la sta guardando, questa è un'altra base di tutti i corsi di self-help che facciamo oggi, quella che chiamiamo noi il New Age, è la realtà sei tu che te la crei, lei lo scrive. Esiste la percezione che crea la realtà, dice lei. Quindi non la realtà oggettiva, ma esiste la mia percezione della realtà che in quel momento fa sì che io stia creando quello che io percepisco. Guardate che questa è... Lo sta dicendo la fisica quantistica. Sì, sì, che esatto. L'osservatore esatto. È l'osservatore. Esatto. In un diario del 1928 scrive questa nuova forma di realtà, e questo è interessantissimo perché questo è uno dei suoi momenti di estasi, questa realtà tra virgolette come inerente alla natura, dice, io qui cito le sue parole, questa è una delle esperienze che ho avuto quando sono tutti insieme, dice, quando siamo tutti insieme in un gruppo e parliamo la sera nella casa di Bloomsbury, parliamo tutti insieme, questa è una delle esperienze che ho avuto, ho preso coscienza di ciò che chiamo realtà, una cosa che vedo davanti a me astratta ma che risiede in basso come in alto. E accanto a questa cosa nulla importa. È qualcosa in cui io riposerò e continuerò ad esistere. È immensa. la realtà la chiamo. E lei dice, però sono io che la chiamo realtà, non è la realtà, è qualcosa in cui continuerò ad esistere al di là del tempo e dello spazio. Per me questo è risveglio, è samadhi totale. E a volte penso che questa sia la cosa più necessaria per me, quella che cerco, al di là di tutto il resto. Quindi la sua è una tensione mistica verso l'annullamento nell'infinito, nell'una. È la stessa cosa che cercava Catherine Mansfield, che è andata a cercare da Gurdjieff. Per questo le due anime si sono prese così bene. Ecco, io credo di aver finito. Sì? Ok, allora sono le 6:20, facciamo una pausetta e dopo facciamo la nostra meditazione. Sì. Qualcuno ha la chiavetta perché che vuole caricare? No? Quindi posso spegnere il computer? Sì. Allora io non ho avuto una gran connessione con il genere, quindi sono andata da Mary Wollstonecraft. Sei andata da Mary Wollstonecraft? Sì, che l'ho sentita proprio forte. In realtà non ho studiato questo mese, l'ho studiato questo mese. Sì, infatti mi ricordo, ti sarei annoiata oggi. Ti sei annoiata oggi? No. È che proprio io e Virginia Woolf ci siamo guardati le cose. Comunque, è stato interessante perché mi ha proprio inneggiato a una lotta per cambiare gli stereotipi. E poi tu hai detto una cosa sugli stereotipi, hai detto, ma senti tu quello che e quindi, ora non mi ricordo perché mi ha detto davvero tante cose, però il fulcro era questa cosa di cambiare gli stereotipi. E cioè appunto di cambiare alla base tutto per poter ricostruire qualcosa di più. E poi sono andata dalla Camille Claudel, mi è piaciuta così tanto. Anche quest'altra volta in questo mese non ho avuto molto tempo per studiare. E io ero rimasta folgorata dall'anziana, dalla scrittura dell'anziana, e mi ha detto così, e mi ha detto una cosa che aveva una forma molto bella, però comunque che se non impariamo a mostrarci per quelli che siamo, non possiamo trovare fierezza in ciò che siamo. Quindi wow, che bello. Cioè se proprio non ci mostriamo così, non c'è fierezza, continueremo a nascondere e a costruire qualcosa che non è vero. Grazie, bello. Chi vuol parlare? Mi allaccio con il Claudel, io ho visto lei, Virginia troppo alta. Invece di Camille Claudel, tantissimo. È stata prigioniera tutta la vita, cioè ho sentito la gabbia in cui lei è stata, in vita, nella vita fuori e nella vita da reclusa, quindi questo bisogno di libertà, forse perché ho avuto, è solo un'esperienza in carcere molto forte che ho fatto settimana scorsa, e sono entrata in carcere con un lavoro che sto facendo con gli animali e sono stata con gli ergastolani in questo progetto, io ho percepito il significato della perdita della libertà e della spersonalizzazione. Quindi è un tema che avevo molto forte, quindi lei lo sentiva come la reclusa, quindi il bene supremo della libertà, bisogna essere liberi, cioè mi trasmetteva questo cercare la libertà, uscire dalla gabbia, costi quello che costi, ecco questo, quindi la sua angoscia nella reclusione a vita. Ancora prima di... Sì, sì. Cioè fin da subito? Sì, io sentì lei era reclusa prima, e poi è finita reclusa, cioè sì. Mi ha trasmesso questo fatto che è sempre stata reclusa in ergastolana anche prima. Come se avesse creato lei stessa la sua... Sì, che poi guarda, la fine naturale era reclusa dopo, ma lo era anche prima, quindi sfondare le gabbie, più sfondare le gabbie. Sì, perché è strano comunque che sia sopravvissuta 30 anni in manicomio, no? Una che ci sta male... Esatto, lei era abituata a essere ergastolana di se stessa. Sì. Per cui questa è una fortissima cosa. Wow, grazie. Ops, hai bisogno di un cognacchino. No, no, è che esco da un'esperienza veramente molto forte che mi ha piegata sul serio. Perché io non sono mai entrata in carcere, non ti parlano di colpa, di tante cose, ma finché non tocchi con mano cos'è entrare in carcere, cioè, mamma mia, fate una bella pulizia adesso, ma mi raccomando. Sì. Sale, fate un bel bagno con acqua e sale. Mettici delle gocce di olio essenziale di rosmarino, pulisciti. Mi sono portata via un'angoscia. Pulisciti. Cioè, io mi sarei ubriacata quando sono uscita dal carcere. Giuro. Avevo una necessità di roba colorata e profumata perché lì sarei proprio fra i carcerati. E quindi. Beh, fatti un bel bagno con acqua e sale adesso che vai a casa, lascia andare. Grazie. Irene? Ma io in verità. Ho visto tutte queste donne, ho visto le antenate, ma mi ha portato un messaggio la mia nonna. Ah. E a proposito di libertà, mi ha detto di essere libera dove ti amanti. Ah. Profondamente. E su questo, insomma, abbiamo qualche decennio di lavoro da fare. Grazie. Chi vuol parlare? Per me è stato secondo me anche ridicolo all'inizio in realtà, perché me, quando siamo partiti e stavamo scendendo il primo scalino, mi sono trovata davanti a Virginia Woolf. E quando siamo entrate, aprite la porta, Virginia Woolf, vedete un prato, come un prato, ma io sono davanti in giro. E anche quando dovevamo vedere tutte le altre donne, io percepivo delle presenze, ma io continuavo a vedere solo ed esclusivamente lei. Perciò le altre non l'hanno vista, te la sei fregata tutta. Ai piedi, io le ho detto, dimmi quello che mi vuoi dire, e lei non mi ha detto niente. Si è solo fatta vedere. E mi sono in quel momento sentita cadere proprio sulle ginocchia, mi sono lasciata andare nel prato, a testa china, non ho più sentito nulla di nulla e per me è successa una cosa violentissima a livello fisico, sono tornata improvvisamente, non so se io o qualcos'altro che mi sono portata dietro, però ho sentito proprio come se qualcuno sdraiato mi cadesse addosso, mi entrasse nella pancia e tutto il mio corpo ha sussultato, ho fatto proprio così con le braccia, con le gambe e sono tornata in me, non so se è stato il mio corpo che veramente ha dato il mio corpo sottile che veramente ha dato in astrale per tornare al suo posto. Adesso come ti senti? Anche frastornata perché non mi era mai implicato una cosa simile. Dopo quando finiamo ti pulisco. Grazie. Allora, pensiero, è andato un pensiero nel momento in cui si è aperta la porta. Probabilmente l'hai vista e ho percepito la sua anima, nel senso che non l'ho proprio vista, perché comunque non c'era questa meraviglia di giardino, c'era una nebbia e anche il fumo, le antenate erano molto, molto lontane. E il pensiero che poi mi ha accompagnato per tutta la meditazione è stato questo: la verità è nascosta. E questo pensiero io sono. Ah, quindi cioè il giardino fiorito dell'Eden l'ho visto solo io. O io? Io ho visto il giardino, cioè dopo quando ho visto lei, sono andata oltre lei e il giardino c'era, però poi anche nel giardino, in questo cerchio in cui c'erano delle presenze, io anche delle persone. Le presenze, non le persone. Ah. E forse non erano persone, forse erano. Che poi non erano proprio neanche un cerchio, perché c'era un cerchio grande e una mezza luna dentro che sembrava un altro cerchio. Però molto lontano da dove ero. Sentiamo la Cristina, dopo facciamo... Hai voglia di raccontarci, Cri? Non ci riesci? Ci provo. Dai, prova. Che racconto io la mia intanto così? Sì. Dai. Io ho avuto una visione di beatitudine totale, fortissima, e sì che ne faccio di viaggi a incontrare le antenate, quindi direi che non è la prima volta per me, ma ho visto, c'erano veramente tante donne native, con le trecce, la pentolona della zuppa, e poi queste le donne che sono state convocate oggi, che sono state citate, che si sono messe a farmi un giro tondo intorno, e che mi hanno donato dei fiori, margherite, garofani, rose, Mary Wollstonecraft che mi ha regalato una copia autografata del suo libro. Vai. E, le ho viste tutte, c'erano tutte, mi danzavano intorno, ma con giubilo, il giardino era bellissimo, le donne erano bellissime, io stavo benissimo, e poi a un certo punto ho avuto proprio questa visione. Avete presente l'immagine del, non so se il Talmud o la Torah, questo rotolo che si srotola, l'ho visto dentro qua nell'utero, no? Ho visto l'utero cilindrico, l'ho visto proprio come se l'utero si potesse srotolare e se dentro ci fosse tutta quanto il sapere, con questa informazione molto chiara che noi siamo le radici, che l'albero siamo noi, l'albero della conoscenza sono le donne, e quindi questa idea dell'albero, no? Della trasgressione, dell'Eden, che in realtà non potevamo trasgredire perché siamo noi stesse l'albero. E questo che concetto che manca è che noi pensiamo che l'albero sia qualcosa di fuori che dobbiamo raggiungere, mentre in realtà lo stiamo incarnando. Ma la verità nascosta ci sta tutta, nel senso. E anche la pancia, ecco. Allora ecco che cos'è, perché io ho proprio visto un utero che si srotolava, quindi non è, in realtà non è entrato niente, è che abbiamo tirato fuori l'utero ancestrale della conoscenza femminile, dobbiamo onorarlo allora adesso. Ce la fai, Cri? Dai. Allora, io ho visto quando ho aperto la porta, poi in terrazza, e tante rocce, poi ho visto questo fumo andato, sono andata e c'erano tante rocce. Che deve essere bella, raccontacela. Tante donne. Tante donne. Sì. E io ho chiesto cosa potevamo fare, come si poteva fare in questo momento, cosa. E io mi sono apparse tutte le finestre con le sbarre. E una sensazione di angoscia lì. Il tuo carcere. E basta? Finita lì con le sbarre, non ti ha dato la lima? No. Allora adesso chiediamo la lima, ragazzi. Non possiamo finire così. Dai, ci alziamo in piedi tutte quante insieme e chiediamo che ci venga data una lima per segare le sbarre. D'accordo? Sì. Facciamo apparire. No, ma niente, ma stiamo sciolte. Stiamo sciolte, che l'energia scorra libera. Allora visualizziamo, adesso tutti insieme potete anche tenere gli occhi aperti se volete, una bella lima, neanche una lima, un bel tronchese, quei belli grossi tipo giardino, la vediamo che cala, che cala, che cala, e ci viene dato in dono dalle nostre antenate questo enorme tronchese per tagliare le sbarre della gabbia. E connessione, però ragazzi, oggi avete avuto visioni a due, pensa. Siete pronte? Allora immaginiamo tutte insieme di appoggiare i capi del tronchese, immaginiamo una finestra con tre sbarre, dai, l'archetipo della finestra. Tutte insieme abbiamo in mano questo tronchese, tutte insieme adesso tagliamo la prima sbarra, almeno tre, uno, due, tre, tagliamo. la vediamo proprio che si spezza e se ne va. Passiamo alla seconda sbarra, appoggiamo tutti insieme al mio 3, 1, 2, 3 e tagliamo la seconda e si dissolve. Adesso la terza, insieme, le mani sul trompete, 3, 1, 2, 3. Ok, la finestra è libera, vediamo l'azzurro di là, c'è anche una scaletta da cui si può uscire e andarsene libera nella campagna. E chi si sente ancora dentro nella gabbia adesso ne approfitti per salire sulla scala e uscire e andare fuori. Adesso è il momento. Salite sulla scala e vadete, vadiamo tutti insieme dalla prigione. La maglietta in marcia. Dal 30 fino a metà settembre. Ah, va bene, allora avevo pensato che forse in dicembre non abbiamo tanta voglia, ma in dicembre niente. Stiamo così. No, ok. Allora ci vediamo il 21 di settembre, quindi abbiamo un bel po' di tempo per studiare. Esatto. Poi il giorno dopo ci sarà anche l'edizione speciale di Strigari, quindi si vuole fermare. Siamo in un'altra tra l'altro, quindi sarebbe bello ci trovare insieme, già che ci troviamo. Sì, beh, io sono già prenotata da lei perché il giorno dopo dovremmo andare a Strigari un po' in vari casa per tornare qua. Vodicino Casolina e poi dopo saliamo a Bisogna? No. No, è a Costa prima. Che è sul lago di Sera. Che c'è questa edizione speciale di Strigari per i 10 anni, io terrò una conferenza la domenica sulle terre. Se per caso vuoi fermare anche più tutto lavoro, faccio la mia, dovresti starci con qualche punto. Sì, se ma qui non è una testa. Beh, io ho una moda, io ho detto che mi ha detto. Sono tutte le mie amiche, c'è un attimo. Ah, bene. Ok, grazie. Non mi ricordo qual è la prossima antenata perché ti uso con più. Se non sbaglio abbiamo legata. La prossima volta ci trovo. E poi la conosco poco, però è andata. Ma è stato libri che non si artisti in pesata. È musicone, l'avevo cercato un sacco. Ma la musica? Esatto. Io ho chiesto i libri, ma sono parte che sono in latino di grafico tradotto e comunque non. Lei non ha messo di certo nei suoi libri. Allora potete guardarvi Visioni, film che avrete incontrato, c'è su YouTube, che è bellissimo. Potete ascoltare il racconto di Ivana. Ho letto il libro, guardatevi, c'è una parte molto bella. L'abbiamo utilizzato perché quando abbiamo fatto, stiamo facendo il percorso delle 13 con la nostra tenda rossa, e c'è stato quasi tutte le altre piccole che abbiamo avuto in regalo, che abbiamo potuto trovarci. La sigla? Sì. La sigla. Abbiamo detto proprio anche notte, quando abbiamo fatto il cerchio. Perché tra l'altro sui Vedanta si hanno un sacco di informazioni di storia. Primo perché era una sciamana e tutto passato nel filtro della chiesa. Secondo perché ci hanno fatto passare che lei si chiama Robo, invece non è così. Nel capitolo io riporto la versione della Sofia della Manz, sì. Che essendo tedesca ha raccontato la verità sui Vedanta di Linger, quindi mi ha detto, quindi se volete vi potete andare. Più che ascoltarlo, scaricatevelo dal sito e leggetelo, perché nelle note ci sono informazioni che nella versione audio non ci sono. E poi comunque ci sono tanti libri sulla medicina liberale, scritti da altri, che sono interessanti, però è la almeno scriviamo uno scritto da Giornatali vedate qualcos'altro, che è un'autrice, una guaritrice contemporanea, che parla molto delle sue ricette. Che per me è interessante di vedere il fatto che lei curava il cibo, le ricette sono. Essendo una pagina su Facebook. Le ricette di Degarda, sì, c'è qualcosina. A ottobre a Stresa c'è cioè, due giorni di medicina indegardiana, c'è cioè, un convegno sì. Di due giorni. Sì, a Stresa, 10-11 di questa scuola.